Marisoni, ascoltami bene. 18 e 26 si spegne il computer. Se no, ti faccio vedere come è fatto Windows da vicino. Che ha facciato in due schermi. Ci siamo spiegati, Marisoni? Ci siamo spiegati? Guardati un film e porno e non sfruttare la tu donna. Tu vedi film porno, Mauro? No, mi aveva regalato tre o quattro un vecchietto, però mi avevano annoiato, li ho dati a un ragazzo lì. Più porno lo guardi, no? No. Non ha tempo, per carità, non me ne frega niente. Ma no, preferisco farlo che guardare. Cos'è che ti eccita di più di una donna? Il culo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. San Gennaro, mia fortezza, la Vaccruciani si senta puzza. San Gennaro, cattivi ammazzi, pensa a Parenzo, ciuccia cazzi. Scopare davanti alle moschee. Questa è un'idea crucio. Non le idee di quel Parenzo democristiano di merda! Parenzo democristiano di merda! Sotto tutti! Io faccio... normalmente viene questo rumore quando succhio un cazzo io. Con questa trasmissione della zanzara della minchia. Non so se hai riconosciuto il signor Pappalardo. La cosa è incredibile. No, ma tutto l'insieme è incredibile. Alle 18.36 ho contato due reati. Siamo di fronte, per dirla alla Manconi, siamo di fronte a una sottocultura mediatica, siamo di fronte a una prosopopea della stronzaggine, ha scritto il grande Manconi nel libro Non sono razzista, ma non voglio parlare di questo, ma di questa sottocultura mediatica che la corte e tu e tutti gli altri, oggi Poli e tutti questi criminali di cui un giorno andranno fatti i nomi e cognomi, di Mercù, di Poli, di Longoni, di Ramelli, persone che ogni giorno commettono reati. E io voglio dire Woodcock, non voglio urlare, ma voglio dire Woodcock, dove detto, sei? No, ma voglio dire, e i procuratori di Catania, ad esempio, Zucchero, Zucchero, dove sei Zucchero? Indaghi sulle NG, Zucchero ma è buono, sì. Apri Zucchero, un fascicoletto su questi personaggi che da Milano ogni giorno mettono insieme questo baraccone. Comunque andiamo avanti, perché ho già sentito troppo. E io dico oggi invece una cosa, amici troppo, miei, troppo. In apertura di trasmissione, Fiano! Dove sei Fiano? Dove sei il sindaco del Partito Democratico di Fidenza? Un piccolo paese, come sai, se non lo sai te lo dico io, no. Fidenza, io un posto dove vado spesso a correre. C'è Fidenza, un outlet lì, Salso Maggiore, esatto, c'è sì. Un outlet. Ce lo conosco dall'autostrada. Dall'autostrada, no, ho capito, ma stai insultando Fidenza adesso? No, ho detto che è un outlet, c'è un outlet dove sono il andato una volta. Il sindaco PD che... di Fidenza. Vuole inaugurare, o ha già inaugurato, un monumento dedicato a un eroe della Repubblica Sociale Italiana, un aviere, un tale che si chiama Gorrini, di cui non conoscevo il nome naturalmente. Un monumento, sindaco che PD, vergogna. Un monumento in onore di un signore della Repubblica Sociale che Italiana. Vergogna, Fiano, che vergogna. Dove sei, Fiano? Sarebbe dove come sei? Se in Germania facessero un monumento a Himmler, a Kappler. Ma ci sarebbe un'indignazione e popolare. E poi tu ti indigni per la corte e per le cose che vengono prodotte in questa trasmissione. Terribile. Ma cosa dire invece Terribile. Di quello che accade nella giustizia italiana? Allora, in un piccolo paese in provincia di Udine, caro David, cosa accade? Notizia di ieri, ma oggi è rimbalzata su tutti i media, come si dice, cosa no? È stato scarcerato ieri dal carcere di Pordenone, dove era rinchiuso, un ragazzo che si chiama Francesco Mazzega, 36 anni, che era detenuto in galera, come è normale che sia, dal giorno del suo arresto per l'omicidio della fidanzata che si chiama Nadia Orlando. Nadia Orlando. Cioè, dopo due mesi di detenzione, questo signore che si chiama, ripeto, Francesco Mazzega, è tornato a casa, per fortuna con il braccialetto elettronico, naturalmente con il braccialetto elettronico, e papà e mamma magari gli rimboccano le coperte a questo signore. Mamma. Omicidio. Mentre magari, lo voglio dire, anche venendo dalla tua parte, caro David, mentre magari ci sono spacciatori o piccoli spacciatori che marciscono in galera, questo ragazzo, questo assassino, reo confesso, non è una cosa, diciamo, in dubbio. Ma non è stato cosa. Scarcerato, però. Sì. È stata disposta, adesso, quella che giuridicamente si chiama una misura alternativa. Amici miei, è una vergogna. Con braccialetto elettronico, cioè comunque ristretto giuridicamente. È ristretto comunque, non è stato liberato. Ma sta a casa, capito? Un assassino dopo due mesi che ammazza la fidanzata. Sono d'accordo con te, non ho letto gli atti e l'istanza di scarcerazione. La giustizia prevede il braccialetto. Ma sì, certo. Ragazzi, quelli che ammazzano in questo modo, il braccialetto elettronico non deve essere nemmeno pensato come misura. Puoi avere ragione, ma non dare messaggi falsi, perché non è stato scarcerato. È tecnicamente un ristretto, si dice nel linguaggio. Ma è a casa con la madre e il padre che magari lo coccolano a casa, gli rimboccano le coperte e gli fanno da mangiare. Se gli rimboccano le coperte, probabilmente sì. Sicuramente gli faranno da mangiare. Questo penso, ma questo vabbè, è ovvio che gli faranno da mangiare, certo. Allora, io quando Briatore parla, spesso godo. A un certo punto, ieri era ospite, credo, della signora Berlinguerra, no? Sì. A un certo punto ha detto: ma lei che cosa faceva mentre nel 68, non so quando, protestavano per il Vietnam? Cosa deve fare? Risposta meravigliosa di Briatore, sentite, numero uno. Quando nel 1968 i suoi coetanei protestavano davanti alle scuole contro la guerra in Vietnam, insomma, davanti nelle università, lei cosa faceva? Io non andavo a scuola, stavo a casa e giocavo a flipper. Sì, ero campione si di flipper. Disinteressava completamente di quel che succedeva in Vietnam. Non gli fregava assolutamente niente. Assolutamente. Una cosa incredibile. Ma è il numero c'è uno. Di un qualunquismo assoluto. Ma è il numero uno. E invece vedi che Bianca. Flavio, dove sei? Vieni tu a comandare l'Italia. A Monte Carlo. Vieni tu a comandare l'Italia, Fabione. Bianca, giustamente, Berlinguer, per porre una questione politica. Che è tua sorella, Bianca. No, la conosco benissimo. Chi se ne frega, ha posto la questione politica per capirne anche la persona. Dice, lei dov'era quando c'era l'impegno dei giovani, dei ragazzi? A giocare a flipper. Dov'è? A giocare a flipper. Del Vietnam non me ne fregava una mazza. Ti piace te questo qualunquismo? Questo qualunquismo? Del mondo, è la fregarsene è la delle cose, non ti piace quella passione civile degli anni 60? Dove sei? A casa sua, a Monte Carlo, dove vuoi che poi sia. Poi gli fanno una domanda sul signor Cavalli, sai che si è proclamato marxista, no? Cavalli, sì, signor Cavalli. Vabbè, senti, Cavalli marxista. Senti la risposta di Briatore, ti prego. Sì. Lui forza di fare botulini se ne è infilato in più nel cervello, per cui lui, il suo problema è che fuori Roberto era una persona perfetta, un amico mio, e lui ha queste provocazioni da testa di cavolo che non ha nessun senso. Difatti, io il giorno dopo abbiamo fatto una fotografia, bilionario imballato, Cavalli vuoto, ma lui che se ne cerca? Io gli ho detto, troppo botulino ti fa male. Se nasci in Africa sei più sfigato di uno che nasce a Milano, vai. Lei da ragazzo cosa sognava di fare? C'era una cosa che sognava? No, sognavo di fare qualcosa, prima di tutto di andare via da dove abitavo, perché era un grande handicap, no? Perché quando la logistica quando nasce è molto importante, se tu nasci in Africa sicuramente sei più sfigato di uno che nasce al centro di Milano, se nasci a Cuneo sei un po' più sfigato di uno che nasce nel centro di Torino. Sulla questione Rom, caro David, sulla questione Rom, sempre se tu presente ogni qui giorno, alla Zanzara. Esatto, appunto, se tu ogni giorno non mi riferiscono di una sassaiola tra in un campo Rom abusivo, sempre in provincia di Roma, di una sassaiola tra agenti, residenti, Rom che si ribellano, eccetera. Ma lasciamo perdere fatti di cronaca che magari non sono così importanti. Senti questo Rom intervenuto, indovina quale programma, indovina quale trasmissione. Dalla vostra parte? No, sì, dalla vostra parte. O la quinta colonna? No, dalla vostra parte. Signor Ciznik. Sentiamo. Scusa signora, ma lei sa come si sente? Peggio dell'Auschwitz. In Auschwitz ci avevano acqua potabile, ci avevano gas, avevano i forni. E noi dove viviamo da 12 anni siamo stati fregati dallo Stato e dal Comune. Beh, amico mio, questo è il top assoluto, viviamo peggio che ad Auschwitz. In fondo ad Auschwitz avevamo l'acqua, ma soprattutto poi cita il gas e i forni. Forse male informato l'amico Rom, male, un po' male informato mi pare, no? Sì, certo, ma c'era poi il gas. Voglio capire questo, tutte queste tele, il gas sicuramente purtroppo c'era, no, come proprio dalla storia, però veniva usato non per cucinare, anche, diciamo, ecco, anche per cucinare. Raramente. Però la cosa che più mi stupisce ogni volta, come queste telecamere riescono a entrare facilmente in questi campi Rom, e loro si concedono per ore, no, in queste trasmissioni. Cioè, non c'è persona che ha più grande presenza televisiva su Mediaset dei signori Rom. È una cosa incredibile. Cioè, ogni giorno c'è un collegamento con un campo Rom, ma ti credo dicono, che non fanno un cazzo. Che no, rubano. Ma voglio dire, ti credo che non lavorano. Per colpa di Mediaset, non lavorano i Rom. Dice perché? Perché ogni giorno li intervistano. Ma io anche, che vado sempre in televisione, non vado in televisione tanto quanto i Rom, però. Ogni giorno li trovi. Trovi sempre un collegamento. Secondo me poi c'è proprio un accordo. C'è una telecamera fissa lì, in cui dice, chi si, come qui al Sole 24 Ore, che c'è la telecamera, tanto si collega a Barisoli, si collega a Guido Gentili, eccetera, eccetera, no? E lì, secondo me, nei campi Rom c'è la telecamera fissa, ti do la vostra parte. E lì arriva signora Sabetta, prego. A noi fame, mangiare, volere, non c'è nulla. Benissimo, grazie. Ci vediamo martedì, altro giorno, altro campo. A noi telecamera accesa, 3, 2, 1, in onda. Io rubo, allora, ruba, certo che ruba. Sono Rom, ruba, non lavoro, ruba. Tutto uguale. E appunto, carrellata di Rom che rubano davanti alle telecamere, spesso Mediaset. Rubiamo, certo, se non rubi, non mangi. Come fate ad andare avanti? No, andiamo a rubare. Andiamo a rubare. Andate a rubare? Ma cos'è che rubate? Rubiamo, cosa capita? Sto uscendo al casello di Carisio e sono emozionato. La Zanzara. Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Renzo, fai vedere che hai le palle. Assumi la Rom e dagli anche la sedicesima. A proposito, caro David, voglio tornare su quella proposta di ieri, perché effettivamente tu, che allora, sei così vicino al mondo Rom, sei vicino al mondo Rom, ma diciamo la verità, non sono, è mica che poi puoi rinnegare delle, questa cosa. No, sono per i diritti delle persone, sono contro le generalizzazioni, non è possibile, allora, dire che tu, cioè, ieri la sono. signora Sabaeta, che è una esponente importante del campo Rom, dove c'è la scabbia, dove, dove ci sono un sacco di malattie, eccetera, cioè topi, strafottere. La signora Sabaeta, campo Rom di Castel Romano, si è offerta al grande pubblico della Zanzara, ma noi offriremo la sua collaborazione a imprenditori, a gente della sinistra che magari ha parole a favore della comunità Roma e poi non piglierebbero mai una donna con la scabbia o con i nipoti con la scabbia. Lei non ce l'ha, lei non ce l'ha, i nipoti ce l'ha. Amico mio, questo è il punto. Prendetevi a casa la signora Sabaeta, perché la signora Sabaeta sa cucinare, sa lavare bene, non lo so, campo Rom bisogna vedere com'è conciato, comunque dice di saper fare le pulizie e di saper cucinare. Sabaeta e il campo Rom, avanti, offritevi. Potrebbe fare le pulizie Sabaeta a casa di Parenzo, per esempio. Sì, no, come sì, le pulizie sì, a casa Parenzo, no, ecco, io, è perfetto. Io, pulizie una, a casa Parenzo, ah, no, ho già la Roma tata, non la vuoi, la Roma no, non chi la vuoi, detto? La Roma ho già con la scambia e con i bidocchi non la vuoi. No, ma che scambia, ho la tata. Lei sa anche cucinare, immagino, no? Io cucino tante cose. Tante cose, tutto beh, lo so cucinare. Tutto. Roba di bosniaca. Beh, anche la cucina bosniaca potresti scoprirla, caro David. La conosco, perché è non un po' prenderla pesantina la cucina bosniaca. Perché non prenderla a Cottimo? Perché non prenderla a Cottimo, la signora Sabaeta? No, fai un'opera di bene. Ho sotto già una straordinaria tata che come fosse una persona di famiglia. No, non è filippina per niente. Che cos'è? No, che cos'è? Italianissima. È italiana sì, Rom no. No, ma è una tata straordinaria e quindi che è parte della famiglia, peraltro, quindi non è persona. Comunque a Roma vogliono fare le ronde. Parte della famiglia. Alcuni esponenti dell'estrema destra fascista fascisti fanno le ronde di sicurezza. Posso dire che le ronde non servono a un cazzo? Le ronde. Ragazzi, le ronde. Ma le ronde vanno fermate. Ve lo dico io che non ma è che le sono... ronde vanno fermate. Senti... Le fanno le forze dell'ordine le ronde, non dei privati cittadini. È una vergogna. Chi è questo? Questa Forza cosa Nuova? Qua. Chi è Forza Nuova? Forza Chi è? Nuova. Vabbè, comunque, insomma, gruppi di estrema destra vogliono fare le ronde. Nuova. Le ronde. Siamo fascisti e patrioti e questa terra la difendiamo. Stiamo a casa nostra, dai! Oh, questa è casa nostra! Questo è il nostro territorio. Questi li stanno occupando, stanno facendo di tutto e di più. E noi li massacreremo. Se vuoi sentire bene il termine, li massacreremo. Ma questa dimmi è gente pericolosa però questa. Beh, ci sono gli audio, le voci, se qualcuno li ritiene pericolosi no, li vado a cercare. C'è un magistrato all'ascolto. Ancora per cortesia. Ma che vuoi trasformare questa trasmissione in un concentrato di denuncia alla magistratura? Questa trasmissione è un concentrato di reati. È un, non l'ONG. Questa trasmissione è allora un concentrato di reati. Allora ti offro un'altra cosa, Donato su YouTube. Ma Donato. Donato da Varese su YouTube. Ma cosa fa su YouTube Donato? Senti. Pure su YouTube. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese, in questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo. Stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa, un paese enormemente enorme, mi sembra 35 volte l'Italia, mi sembra, no, non voglio dire una cazzata, almeno 35 volte, perché non ho visto ancora i numeri ufficiali. Questa è un'Africa immensa, hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non possa, hanno cagato figli, li stanno portando qui senza problemi. La sinistra deve completamente morire. Se io riuscissi soltanto a essere anche eletto da italiani come me, io questi negri li faccio sparire da questo suolo, li faccio sparire. Allora, caro David, io direi che Donato è pronto per una candidatura, direi, o con noi con Salvini, Casa Pound, eccetera, eccetera, oppure addirittura il movimento, quello di Meluzzi, no? Quello anti-Islam. Ci sono tanti movimenti che possono ospitare un decorticato come questo qui, guarda. No, è essere così, dai. Lucio da Napoli, dai, Lucio. Imbecille, razzista. Vai, Lucio! Razzista, imbecille. Lucio! Una roba schifosa. Pronto, eccomi qui. Ho tolto una roba indegna. Volevo semplicemente fare un'osservazione. Quello che ha liberato questo signore dopo due mesi è magari la legge, ma non è certamente la giustizia. Sì, vabbè, adesso a parte questa cosa generica, eccetera, parla meglio perché ti sentiamo male. Che cosa vuoi dire? Non ho capito. Volevo semplicemente fare sei incazzato per vabbè, ma questo lascialo fare, vai al simposio di filosofia. No problem per noi, però Lucio, non ho capito, allora, tu sei incazzato per questa cosa? Ti fa arrabbiare? Assolutamente. Ti fa arrabbiare? No, ti fa arrabbiare. Io vorrei dire una cosa. Dimmi. Quando i giudici emettono delle sentenze. Ma non è una sentenza questa. Questo qua è stato messo ai domiciliari col braccialetto elettronico a casa due mesi dopo l'omicidio della fidanzata. Qualcuno lo deve aver disposto. Ma sì, certo. Evidentemente non viene considerato pericoloso. O comunque qualcuno che ha disposto questa cosa. Così come tante sentenze di stupri e tante altre cose. Io dico, ma questi signori che fanno queste disposizioni hanno mai provato sulla loro pelle cosa significa aver avuto ammazzato un figlio, un parente, un qualcuno? Non credo. Perché Pietro da Bologna. Che ragionamento è? Cosa Pietro vuol da dire? Bologna, vai Pietro. Cosa vuol allora dire? Volevo dirti, visto Cruciani, se saresti disposto tu a portarti a casa Berlusconi, Che c'è un ladro, un ladro, non ho un capito, ladro scusa. Evasore, visto che parlavi degli zingari, saresti tu disposto a portarti a casa Berlusconi un ladro evasore che magari ha la gonorrea e gli devi cambiare il pannolone? Vabbè, che c'è, Berlusconi a casa? Sì, tranquillamente. Saresti disponibile a portarlo a casa mia Berlusconi, ma tranquillamente. Qual è il problema? Se dovesse essere, non credo che sia la situazione. Qual è il punto? Non capisco il paragone. Ma non capisco la provocazione. Scusa, non l'ho capita bene. Ti sei espresso male. Dai, parli agli altri di portarsi a casa la povera gente. Ti sei espresso male. male, andiamo avanti. Semplicemente volevo intervenire sui fascistelli che in qualche maniera a cui ti mostri tollerante. Io non sono tollerante nei confronti di nessuno, Pietro. Quel fascistello che dice che vuole massacrare i migrati, che poi certe volte questi alcuni andrebbero veramente andati in galera perché sono dei delinquenti. Dovresti magari ricordargli che è stato massacrato il suo capo lì a Milano. Pietro, au revoir, au revoir. Addio. Non c'è bisogno di dire nulla perché ti chiudo la linea e ti mando serenamente a fare in culo. Boldrini, scusami, sei una brava ragazza. Boldrini, sei un'amica dei cristiani ed è morta. Intervengano i commessi. Boldrini, ed è morta. La zanzara. Noi stiamo diventando stranieri nel nostro paese. In questo piccolo fazzoletto di terra, piccolissimo, stanno arrivando ciurme, carnaio dall'Africa. Questi da un'Africa immensa hanno prolificati con i loro cazzi duri a chiavare, a più non posso, hanno creato figli, li stanno portando qui. Deve la sinistra, deve morire. Se io riuscissi soltanto a essere anche eletto da italiani come me, io questi negri li faccio sparire da questo suolo. Guarda, io ti denuncio, Giù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare un sfaccio messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Allora ragazzi, è ricicciato fuori, caro David, sì. È ricicciato fuori, te lo ricordi il signor Vassallo, Valerio Vassallo? Vassallo, Valvassini, Valvassore, mi ricordo il Medioevo, quando ho studiato il Medioevo mi ricordo che c'erano i vassalli, c'era un bellissimo libro Vita da contadino che raccontava proprio queste figure medievali, appunto. Non c'entra nulla, Valerio Vassallo chi è? È un fascio vegano, nazio vegano, chiamatelo come volete, quello che è venuto qui sotto. Ma pure fascio vegano, no. Allora, è uno che è venuto qui sotto a rompere i coglioni. Fatto benissimo. Mi ha dato del pedofilo, ti ricordi? Il solito Vassallo. È brutto, è violento. È stato con me alle Iene a fare quella battaglia. Il signor Vassallo, tra l'altro, è stato condannato in primo grado per stalking nella foto della fidanzata. Tra l'altro, pure uno che dice di essere vegano, però. Esatto, dicono di essere pacifisti. Di essere tranquilli, condannato in first degree, primo grado. E a noi cosa interessa? Perché a un certo punto continua a fare il super vegano in giro per l'Italia. Cosa ha fatto questa volta? Si è messo a tagliare l'amianto. Io sto a Bergamo, me ne frega niente. A tagliare in un video, taglia ma l'amianto. Ma lo fanno i rom di tagliare l'amianto, me ne frega niente. Vassallo. Hanno tolto delle tettoie che hanno detto Cristina che ha fatto storie in un paese perché era amianto. Io ho detto, amianto, e tanto che fa? Sono le polveri della lavorazione. Poi avevo detto, ma qua l'amianto, dammi a me, ti faccio vedere io. Guarda quanta roba sto tagliando. Che bontà questa amianto! Cioè, questo non sa un cazzo di quello che ha provocato l'amianto, no? Cioè, con tutte le disgrazie, eccetera, eccetera. Senti chi dice, chi non è vegano lavori pure l'amianto, così leviamo merda dal mondo. Sentilo. Prende per il culo, alla fine, quelli che sono morti per queste cose qua. Chi non è vegano, lavorate tanto amianto, mi raccomando. Tanto, guarda, basta tagliare, lo verniciate con la vernice apposta e lo isolate e non corre più nessuno pericolo. Però voi fate come faccio io, senza mascherina. Così almeno pulite un po' il mondo da tutta la merda che c'è. Ciao, buon lavoro. Allora, caro David, andiamo con Mauro dalla provincia di Varese. Poi vedo qua che c'è una persona, chi è che mi è venuto a trovare? Vieni, Mauro, vieni qua dentro, Mauro, aspetta, Mauro, provincia di Varese. Mi è venuto a trovare un signore che ti presento dopo. Mauro, dimmi, dimmi. Buonasera, intanto la ringrazio per aspetta, venuto, aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Aspetta, fermo là. Conte Mascetti, vieni qua, vieni, Conte. Il Conte Mascetti, lo conosci il Conte Mascetti, David? No, quello di Tognazzi. Amico mio, che mi hai portato? Conte, buonasera, Conte, come stai? Ciao. Aspetta che metta la cuffia. Ho portato un po' del mio prodotto per te e da regalare ai primi... Amico mio, mi ha portato il Viagra! Mi ha portato il Viagra, dammi, amico mio, dammi. Marchette in diretta. Dammi, vieni qui, dammi qui, mi ha portato il Viagra. Allora, il Conte Mascetti è uno dei più grandi, è uno dei più grandi produttori di Viagra che c'è, Viagra made in China, vedo qua, però un Viagra naturale. Tutto taroccato, Viagra... No, che taroccato, non dire così, Conte. Fatto allora, con i gatti, allora, i gatti, digli che non è taroccato. No, perché sennò... sono 10 anni che io lo faccio produrre per me, funziona molto bene, nessuno si è mai elementato, nessuno è mai stato male. Da questo Viagra un sacco di gente anche importante, l'abbiamo già detto qua più volte, è stato anche ospite una volta qui del nostro programma, è un mio fornitore abituale di Viagra. Ma perché se avete così bisogno? Perché non riuscite ad andare con le vostre forze naturali che vi ha dato perché la forza ogni del tanto, Signore? Perché ogni tanto ci facciamo perché aiutare anche per essere più prestanti. Ma diciamo, più no? Perché esatto. Mica è una maratona, mica è una gara, è una corsa. Allora, cioè... però io voglio dire una cosa. Vogliamo ricapitolare. Qui ci sono due tipi di pillole, caro, caro Conte. Sì. C'è la pillola... Ma dimmi te, se nella sede del Sole 24 Ore deve entrare un signore, tal Conte Mascetti, Conte che tra l'altro che questo è ridicolo, che dice di produrre del Viagra in Cina. Lo produce, cioè, no, no, ma dimmi produce, tu, ma se uno, ma io voglio dire, poi dici che è questo che ammazzi le imprese, ma no, ti credo, che imprese, questa ma è se un'impresa. Uno, ma che modo di fare? Ma se uno, se un'impresa, l'ho detto tante volte, ma davvero, se uno da Singapore dice, we want to know something about Italy, ah, there is a very important radio, it's Radio 24, ok, switch on please, e accende via streaming, ovviamente, via non lo so come, e sente queste robe qui, dice, ma che cazzo, ma che paese è? Un paese di fascisti, nazisti, a sentire. Allora, di un signore che si chiama Conte Mascetti che vende un Viagra naturale fatto in Cina, ragazzi, allora, miei, ma è un disastro. Allora ragazzi, non stai ammazzando l'impresa di quest'uomo. Allora Conte, dimmi un po', allora, ci sono due tipi di pasticche qua. Sì. Una pasticca normale, sì. Tipo pillola, no? Sì, tipo... una è una capsula, una, e l'altra è un sublinguale, è una compressa sublinguale. Allora, come funziona? Partiamo dalla capsula, sì. Come funziona la capsula? Va presa almeno 3 o 4 ore prima del rapporto. Pillola, l'effetto dura 3 giorni. Tre giorni? Sì, certo. Solo... fa 3 giorni? Sì, sì. Ma 3 giorni funziona così, uno per strada? No, no, assolutamente. No, a solo... contatto con la femmina o col maschio, a seconda? No, appunto, solo se sei eccitato dalla situazione. Anche per i gay funziona, sì. Certo, certo. Assolutamente. Invece il sublinguale, capito Parenzo, questa qua dura 3 giorni, ma questa no, capsula. Ma 3 giorni? Te ne fornirò una, te ne fornirò una. A me non serve assolutamente. Invece la sublinguale, la sublinguale invece agisce molto più velocemente. Nell'arco di mezz'ora inizia a funzionare. E l'effetto delle ultime addirittura di 4-5 giorni, questo testato su di me. 4-5 giorni? Sì, nonostante le mie terapie per il tumore, tutte queste perché cose. C'è pure un tumore, questo sta facendo le terapie, il Conte, capito? Allora, la cosa fondamentale è questa, il Conte Mascetti dice che queste pillole possono durare fino a 5 giorni, cioè tu 4 esatto. giorni dopo averle prese puoi ancora trombare alla grandissima. Esatto. Devo dirti la verità, caro Davide, le ho provate anch'io. Ma ragazzi, e ti dico la verità, funzionano alla grande. Adesso il Conte ci dice innanzitutto chiederlo alle vostre signore. Allora no, io dico una cosa, non Conte, è che l'autopromozione sei in lotta funziona. Con le multinazionali, no? Sì, sì, che diciamo, non lo fanno non... in lotta il comandante, il Conte Mascetti, cioè, in lotta con le multinazionali. So che può sembrare assurdo perché ecco, non sì, sembra bravo, molto non pericoloso lo fa, non vogliono però... bloccare questo business naturalmente no, perché... vogliono diciamo scusa, che... ma quanto costa meno di una pillola di Viagra? Ma poco meno, poco meno, cioè 20% in meno. Sì, 20% in meno, 20% in meno rispetto al Cialis. Allora caro Conte, io ti ringrazio di questa venuta e ovviamente anche di questo regalo mi ha portato diverse pasticche. Io voglio fare un omaggio alle prime 6 persone, 6, non più 5 come ho pensato prima, 6 persone che si presentano qui alla sede del Sole 24 Ore, Monterosa 91, caro Parenzo. Monterosa 91, distribuisco Viagra. Ma come? Distribuisco anche Viagra. Copie del giornale, però. No, almeno. Distribuisco scusa. Viagra. Le prime 6 persone che si presentano qui, Monterosa 91, nome e cognome. Sei arrivata alla reception e dovete dire: sono venuto da Cruciani per prendere il Viagra. Ma non si può. Le prime 6 persone, non ma mi interessa. Ma la sede disegnata da Renzo Piano. Il Viagra, dai, dovrebbe essere, il Viagra dovrebbe essere distribuito gratis dallo Stato. Ma questo è un altro gratis discorso. Dallo Stato agli over 60, over 70. Ma che iniziativa 70. È? Ma scusa, ma ne ho, siccome siccome ne ho in abbondanza, voglio fare un regalo a quelli che ascoltano la Zanzara. I primi sei che si presentano qui, Monterosa 91, vado alla reception, sto andando da Cruciani per prendere una pasticca di Viagra. Vengono qui, nome e cognome, vengono qui e dicono: perché prendi Viagra? Lo prendo perché non mi tira, lo prendo perché voglio scopare meglio con la mia fidanzata. Verrà regalata a ciascuno di queste persone una pillolina di Viagra, di quelle pasticche, diciamo. No? Sì, di quelle erbe di Afrodite. Le erbe di Afrodite, capito? Le grandi iniziative della Zanzara. Le ciao, grandi Conte, iniziative ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Mauro, vai, Mauro. Sì, buonasera, buonasera. Intanto la ringrazio che volete farti intervenire. Mauro, dai, su, vai veloce, dai, dimmi. Sì, veloce, veloce, io mi domando. No, come sei fare. In viva voce, sei in viva voce, tutto quello che non bisogna fare, viva voce o non so che altro, dai, su. Dai, sono in viva voce. Dai, okay? Su. Ok, perfetto. Io mi domando come fa lei a avere di fianco un deficiente come Parenzo? Non è di fianco, sto a Roma io. Non è di fianco, sciocco. Mamma mia, sto a Roma. Sei sempre comunque un coglione. Ma perché? Che ha fatto? Perché la gente radica chic come Parenzo. Gli piace fare parlare bene dei Rom, così tutto a Pollone, gli è mai successo un cazzo. E allora, siccome sicuramente vivrà in una zona residenziale. Lo confermo, confermo. Io no, per esempio. Io no, sempre di aspetta, perché tu ci devi sciacquare la bocca perché dice solo stronzate. Aspetta, stai calmo, stai tranquillo. Che cos'è questa foga? È tanto tempo che volevo intervenire. Ho capito, che cos'è che ti ha fatto incazzare? Abbiamo soddisfatto. Ci sarà la polizia che fa da ronda, mi c'è i soldi, c'è un bel conto, ma che le piace parlare nella maniera? Ha soddisfatto la sua ansia di mostrare la sua subcultura? Sto parlando di difese dei Rom. Ma non c'è, okay, perché non andiamo in periferia dove ci sono i vecchiati che vivono con la pensione da 600 euro al mese, che devono stare in casa blindati per la paura, per la paura che si trovano in casa? Io mi auguro che alla gente come lui, ma soprattutto a lui, sai cosa gli auguro? Che entrano in casa, gli fanno, oltre che spalligiargli la casa, gli fanno un culo della Madonna. Ma che gentile, non si dice così, dai, su. Ma che gentile, ma grazie di questo augurio. Grazie di questa augurio. Marcello dalla provincia di Salerno, mai scocciato. Grazie, Marcello dalla provincia di Salerno. Dai, ma che sono queste cose? Gli auguro che entrino dentro casa e gli facciano un culo. Dai, su, Marcello. Con serenità, calma. Ma quale serenità? Marcello, c'è un livello di violenza. Io sto parlando, mi senti? Dimmi, Marcello, sì. Volevo parlare per quando riguardava il lavoro dei Rom, che prima hai parlato di Sabetta. Sì, Sabetta si offre a fare le pulizie in casa. Parenzo non la vuole. Ma perché devono? Ma se mi ricordo bene, una volta in una trasmissione ha detto che non bisognava mettere il bicchiere di plastica, bisognava mettere la bottiglia di vetro. Allora, ma che vuoi tu, Marcello? Questo certo. Sì, voglio dire che una Roma a casa, io a lei non la prenderei nemmeno se mi pagasse lei a me. Perché? Scusa, perché non prenderesti perché la casa? Allora, innanzitutto quello si mangiano i topi. Cucinano i gatti, dove stanno i gatti. Ma che cucinano i topi e i gatti? Ma che stai a dire, Marcello? Ma tu non sai proprio niente dei Rom. Sì, cucinano i topi e i gatti, adesso sono arrivati pure i Rom, cucinano i topi e i gatti. Sì, quello si mangiano tutto, e se non stai attento, quando vieni ti torni a casa, quello te la fa trovare pulita la casa, ma non di giri, te la fa trovare pulita che non ti fa trovare niente. Tu non prenderesti mai una Rom a pulire a casa tua? Nemmeno se mi paga lei. Cioè, voglio dire, tu vedi, alla fine la realtà è questa, Parenzo, nessuno prenderebbe mai un Rom a lavorare, questo è il punto fondamentale. Loro non ce l'hanno nel DNA la parola lavorare. Fermi tutti. Fermi lì. La Zanzara. Parenzo, ti voglio carico! Luciano, chiedi a quello che prende a lavorare solo i negri se prende altre categorie protette, tipo i mentecatti. Così poi Parenzo, quando lo cacciate, almeno un lavoro lo trova. Ma il signor Michele che assume soltanto negri dagli altri del razzista e poi non assume italiani da Roma in giù. Ma ti devono mangiare i cani, figlio di puttana. T'hanno a mangiare i cani. Allora, a proposito, noto un'escalation, diciamo. No, non di c'è nessuna, non c'è nessuna escalation. Voglio dire due cose. No, voglio dire due cose. Mamma a proposito di questo signore Michele, di questo signore Michele, di cui vi faccio riascoltare fra poco tutto. Il signor Michele da Bari, Michele da Bari, che ha detto che ha un'azienda che assume solo immigrati perché non vuole avere rotture di coglioni. È questo, ottimo, in sostanza, gli italiani. Ottimo. Come ottimo? Che vuol dire? Una discriminazione, ho detto che è una dice brava ottimo. Persona. No, e dice non vuole assumere gente da Roma in giù. Positiva. Che provocazione. Cioè, una provocazione positiva, dicendo che assume solo migranti. Ha fatto benissimo, ha lanciato un grande messaggio, perché dice che lavorano anche meglio di altri. È una discriminazione spaventosa. E soprattutto dimostra di aver grande voglia di lavorare e di fare lavori che gli italiani non vogliono fare. Però voglio dire una cosa prima di farvi risentire Michele, su questa vicenda di cui non abbiamo parlato perché è ancora piuttosto generica, nebulosa, eccetera, degli SMS utilizzati per altro, SMS per il terremoto con i soldi, che sono stati in realtà i soldi utilizzati per altre cose. Sì, tu dici la denuncia di Pirozzi, sì, il Pirozzi è quello che avete sentito. Allora, io sono orgoglioso di non avere mai dato un euro con gli SMS. Ti sbagli. Mai dato un euro. Dipende con gli SMS. Dato. Io ho aderito all'iniziativa del Corriere della Sera della 7, ho fatto una donazione e hanno costruito e hai visto cosa hanno costruito con quei soldi? È un caso. Dipende chi ti chiede i soldi, ma non è vero. Se te li chiede Bubù e poi si intasca i soldi, chiaramente Bubù è un bandito. Ma se sono stato, marchi certificati, c'è quello... il Corriere, la 7 o altre cose riconosciute, ragazzi, la truffa non c'è. State a sentire a me. Prima di dare un euro per gli, con gli SMS a qualcuno, dovete essere certi della destinazione di quelle robe lì. In questo caso la destinazione era certa, ma col cazzo che sono arrivati. Cioè, sono arrivati una parte li hanno tenuti, eccetera, eccetera. Dai. Io sono orgoglioso di non avere mai dato un euro con gli SMS. Ma fai male, invece. Mai dato un euro con gli SMS. Ma avessi dovuto darlo per Amatrice con l'iniziativa del Corriere della 7. Viagra pronto, Viagra pronto, Viagra pronto, Viagra pronto, Viagra pronto, Monterosa 91, Monterosa 91, una pasticca di Viagra, Monterosa 91, Monterosa 91, Monterosa 91, Michele da Bari, vai. Michele, provincia di Bari. È una quantità di reati pazzesca. Dai. Senti, Cruciani, io ho un deposito, un capannone, un deposito carico e scarico di lamiere. E allora? E ho 22 ragazzi di colore, unici, diciamo, bianchi niente. Allora, ti posso garantire, li ho presi 4 anni fa, li ho cercati nei supermercati dove fanno la questua. E questa gente, se... naturalmente... qualcuno ha la possibilità di assumerli, è educata, brava, lavoratrice, bravo. Lavoratrice molto più degli italiani, più degli italiani, bravo. Aspetta, sorridente. E allora? Io un italiano da Roma in giù non lo assumerò mai. Dunque, di a quella feccia che chiama, a quei razzisti, quella feccia, bravo, che poi il 90% bravo. Degli ascoltatori tuoi è tutta feccia, non è che... Siete in tanti, lo ma so, come ti permetti, bravo. Imbecille, siamo come ti permetti? Tanti, si sta risvegliando l'Italia migliore. Ma come bravo. Ti permetti, cretino, come feccia, ti permetti? Feccia, ma feccia sarai tu, feccia sarai pura, tu. Feccia che chiama, feccia che chiama. Ma feccia sarai tu, feccia. Sono una minoranza, fratello mio. Non spaventarti, continua ad assumere solo migranti. Sì, bravo, bravo, bravo, fratello mio, questo bravo. Assumi solo migranti perché ti conviene, migliore. Perché ti conviene no, assumere solo migranti. Ti no, conviene no. Assumere solo migranti. No, diciamo la verità. Io li pago più degli italiani e bravo, hanno la quindicesima, non la quattordicesima, la quindicesima, ti puoi informare. La tua trasmissione che c'è di 2 milioni di ascoltatori, il 90% è trash. Fesh. No, conosci qualche migrante non quelli che vuol lavorare, me lo mandi, io poi lascio l'indirizzo in redazione. Sì, ma lascia l'indirizzo. Ma, deve essere di colore nero, sì, o negro, come dici tu. Il giorno che avrò un giorno felice sarà quando leggerò che Cruciani è andato a sbattere sotto un tir con la macchina ed è deceduto. No, veramente. No, questo è brutto. No, no, questo è brutto. Il mio brutto. Il miglior perdono è la vendetta. Brutto. Sei una vergogna, sei la vergogna dell'Italia. Sei la vergogna dell'Italia, sei. Sei un poveraccio, sei sempre ti ho fatto parlare perché sei semplicemente un poveraccio. Tu scusi, se sei vero, se... ma veramente io la cocaina non l'ho mai toccata in vita mia. Ma per cui... dico io che sempre che si vede da come trasmetti. Ma non è vero, questo assolutamente. Michele, vabbè, Michele, sei un... Michele, sì, tu sei semplicemente un poveraccio. Questo è il punto. Perché, sì, sei un poveraccio. Se tu fossi tu vero, io non so se tu sei vero o no, può darsi pure che non sei vero, stai fingendo. Per quello che hai detto, sei semplicemente un cretino. Io non so, Parenzo, se sei ancora d'accordo dopo aver risentito, no, se sei ancora d'accordo con questo imprenditore pseudotale. Attenzione, è arrivato un signore, prima pasticca di Viagra, regalata da me, un regalo questo qua, non c'è scambio di denaro, ragazzi. Uno che si è presentato qui, signore, tutto preciso, tutto vestito benissimo, senti, siediti qua. Allora, questa è la pasticca di Viagra, aspetta, siediti, metti le cuffie, aspetta, intanto andiamo con Nicola da Napoli, vai Nicola, dimmi. Nicola. Buonasera, volevo parlare di qualcosa di più esaltante, di queste cose deprimenti della morte. Niente, volevo giusto informare il Conte Mascetti e il carissimo Cruciani che in fondo praticamente non è necessario andare fino in Cina per prendere cose che possono sollevare. Perché? Basta mangiare cipolle rosse che sono ricchissime di ossido nitrico. Ma io sapevo, amico mio, io sapevo altre cose, sapevo che ne so, in Calabria alcuni dicono il peperoncino, in Calabria addirittura te lo ricordi, l'anduia, come no? Pirillo era il deputato europeo. L'ossido nitrico è la capacità, è il principio attivo che è alla base della la cipolla rossa come il Viagra? Ma di che stai parlando? Vabbè, ho capito, ci saranno dei principi, eccetera, no, ma il Viagra però, è un'altra cosa, amico mio, il Cialis è un'altra cosa, quello che è i prodotti. Nelle cipolle rosse sono ricchissime di ossido nitrico, a base della concezione, diciamo, di quello che è il vasodilatatore, c'è l'ossido nitrico. Vabbè, ho capito, l'ossido, ma con le cipolle rosse, amico mio, non te diventa come te deve diventare con le cipolle rosse. Ma ragazzo, prova, ma ragazzo mio, ma... Vabbè, fermo, però, Nicola, ti chiami tu, come ti chiami tu? Marco. Nicola. Di cognome pure, adesso vogliamo sapere pure il cognome, no, amico mio, pure il cognome se non te la do la pasticca. Marco come? Marco Marini. Di Milano? Lavora? Vabbè, per forza. No, di Milano no, Marini. Non di Milano, ma lavoro a Milano. Perché vuoi Viagra? Ma perché vuoi questa pasticca? Perché, come dire, la mia signora mi ha detto che vorrebbe una performance migliore, ecco. Marco, anni? Anni? 41. Non si dovrebbe vergognare. Ma fa benissimo. Di questa ma perché? Ma amico mio, ma perché si fa così? Ma perché va a chiamare? Ma che modo di fare è? Ma se non le funziona, sei ma vado sposato? Dal medico. Ma gli funziona, vuole una performance migliore. Convivo. Convivente con una sarà signora. Sarà felice la moglie a sentire certo, la telefonata. Assolutamente. Ecco qua, pasticca di Viagra, te la consegno. Sì. Senti, poi dimmi, mandi una mail. Manda la foto anche. No, la foto non lo so. La Zanzara entra di 24 punti. Marco Marini, 41 anni, convivente. Non signora... fate scambi di coppia voi, vero? Però, assolutamente no, David, ecco, magari no. Li fai tu. No, io ho detto tante volte che anzi. Ciao Marco, prima distribuzione, ragazzi, ma ancora ce ne sono 5. Ciao. Massimiliano, provincia di Vicenza, vai. Massimiliano. Ciao a tutti. Io per contro devo dare contro a Michele, nel senso che io ho una piccola vista. Sì, parla bene, se no non ti sento, Massimiliano, dai. Eccomi qua, i pochissimi operai. E abbiamo assunto dei lavoratori con l'agenzia interinale. Allora, quando li assumi con l'agenzia interinale, tutto bene, tutto. Appena li assumi a tempo indeterminato, subito diritti, subito assegni questo, assegni quello. Vabbè, allora? Stanno a casa. Voglio dire che di contro c'è anche chi è che non lavora bene. Vabbè, ma queste sono ma queste è incredibile. Dice, queste sono vogliono i diritti, capito? Queste appena sono banalità, assunti, dai. Vogliono i loro diritti. Poi, ti rendi conto in che paese poi, viviamo? Passiamo a qualcosa di più corposo. Volevo chiedere al signor Parenzo, sì, perché io posso andarmi a fare il pelo dall'estetista, posso andarmi a fare la barba dal barbiere e non posso andare a farmi svuotare la prostata o la vescica da qualcuna. Vedi che eleganza, svuotare perché? La prostata, perché? La vescica. Lei è perché semplicemente... poi vengono i tumori, ci vengono le malattie. Invece lei noi, è semplicemente noi... una persona impresentabile. Perché ma impresentabile? È una vergogna nazionale. Venire alla radio, in particolare della Confindustria, in particolare dico, no? Quindi l'aggravante, una radio che ha un palinsesto ricchissimo, meraviglioso, dalla mattina con Telese, Milan, Argentina, cosa stupenda. E lei viene qui a infangare alle 19:15 a parlare dei suoi problemi di svuotare la sua prostata. Ma la vescica non l'ho capito. Lei è un maiale. Lei, se vuole fare quelle porcherie, vada, ma almeno abbia l'orgoglio di non dire urbi e torbi le porcherie che ma fa i suoi svuotamenti. Ma perché no? perché non ci interessa che David Parenzo comunque è sempre meglio. Massimiliano, avanti così, avanti così. Voglio dire una cosa. Ciao Massimiliano, ciao, ciao. Ciao, ciao. La cosa incredibile, caro David, è questa, che oggi leggo che secondo un istituto di sondaggi, secondo una ricerca, Nardella è il sindaco più amato in Italia. Io ti giuro mi deprimo per queste cose qua. Io mi deprimo, spero che il sondaggio sia stato realizzato sicuramente prima di questo provvedimento contro i clienti delle prostitute, anzi sicuramente sarà stato così. È una cosa che mi fa deprimere questa cosa. Nardella, Nardella non è quella roba che il migliore sindaco che c'è in Italia secondo una ricerca, ma bisogna vedere queste ricerche che cosa sono. Queste ricerche. Comunque lasciamo perdere. Una cosa che mi ha depresso profondamente, ma credo che le interviste siano state fatte prima che ha punito i clienti delle prostitute. Un'altra cosa che non ci interessa se non marginalmente, il signor Pier Ferdinando Casini, da moltissimi anni presente in Parlamento, come sai, è stato eletto presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Ottimo, il che ci sarebbe molto da discutere su questa scelta. C'è no, da discutere, è un presidente della commissione. Sì, non perché è che decide no, ma lui, c'è una cosa però. Dire? C'è una cosa che ti. Allora, commissione inutile d'inchiesta sulle banche, come tutte le commissioni l'hanno d'inchiesta. L'hanno voluta i grillini, l'hanno voluta no, loro. Ma Casini, presidente della commissione d'inchiesta sulle banche. Come, ma mica no, è, ma ti dico una cosa: non è come Dracula. Come Dracula come presidente dell'Avis, per carità, non voglio dire questo. Né però, come un gatto a guardia di un ristorante anche di pesce. Se, anche se, vabbè. Non è certamente nemico dell'establishment dei banchieri italiani. Ma perché non è ma un deve crimine. Essere nemico? Non è cosa un vuol crimine, dire no. Nemico dei ma banchieri? Ma no, non hanno scelto ma uno. Ma come parli? Ma no, cosa ma sei? Non ho detto un questo. Five stars? No, nemico. Assolutamente no. Non ho detto che devi essere nemico. Ma certamente lui non è un nemico, no, dell'establishment. Comunque lasciamo non perdere. Lo so, ma non mi interessa entrare nei dettagli di queste cose. C'è un elemento però che mi segnala giustamente un ascoltatore. Dal resoconto stenografico della seduta numero 800 del 4/4/2017, Casini, Pier Ferdinando Casini dice: signor Presidente, intervengo brevemente per dire che non me la sento di votare a favore dell'istituzione della commissione d'inchiesta. Non me la sento di votare a favore della commissione d'inchiesta. Non me la sento di diventare di votare a favore della commissione d'inchiesta. E poi dico solo questo e mi taccio. Allora, caro David, voglio riprendere. Questo cambia un po' il quadro. Voglio riprendere la vicenda della povera Nadia Orlando, che è una ragazza che è stata massacrata dal suo fidanzato, reo confesso, il quale è stato, come sapete, poi, non dico scarcerato, è stato portato fuori dal carcere a casa con il braccialetto elettronico. Messo dopo due con mesi. Misura dopo, alternativa. Sì, due mesi termini sono giusti. Passati, due mesi da un assassino così misura feroce. Misura alternativa, dopo, cioè in casa, dopo, ai domiciliari. Sì, dopo due dice. Mesi di assassino feroce, dopo due mesi sì, da sì. un assassino feroce, due mesi. Uno ha il braccialetto elettronico e va ai domicili. Io dico solo questo. Qualche volta bisogna dare anche dei segnali. Ora, io qual è il motivo per cui è stato dato il braccialetto elettronico? Segnale, questo bisogna capire. Esatto. Perché non c'è possibilità di reiterazione del reato? Ma d'accordo, né ma che c'entra? Di fuga, ma forse, cosa c'entra, ragazzi? Ha ammazzato la fidanzata, credo che abbia occultato anche il cadavere per un periodo. Questa è la situazione. Io chiamerei un signore che credo che sia il nonno della ragazza. Sì. Si chiama Giovanni. Giovanni. Chiamiamolo, vi prego, chiamiamolo. Sì. Sì, signor Giovanni? Sì. Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Sì, mi dica. Salve, io volevo sapere qualcosa su questa petizione Giustizia per Nadia. Volevo sapere da lei se lei appoggiava questa petizione. Certamente, certamente. Come si sente lei dopo l'uscita dal carcere di questo ragazzo? Ma per l'amor di Dio, già si sapeva che aspettavano solo questo famoso braccialetto, però è una vergogna, guardi. Ma anche per me è una vergogna, cioè nel senso che è possibile mai che dopo un mese, due mesi dall'assassinio di una persona che è sua nipote, dunque immagino lei in che condizioni sia questo, sia già fuori dal carcere, ma si rende conto o no? Come no. Come la vive lei dal punto di vista personale, come nonno della ragazza? Ma guardi, a noi ci è caduto il mondo addosso, perché eravamo una famiglia unitissima. Questo individuo l'abbiamo raccolto e tenuto come un figlio per un anno, stato assieme a noi, andava delle lettere di ringraziamento ai genitori per come veniva trattato di qua e di là. L'ultima sera è stato giovedì, prima dell'evento, abbiamo cenato insieme, Non lo so, non so cosa dire, cosa gli è capitato, cosa gli sia successo. Per noi c'è caduto il mondo addosso. No, non c'è dubbio. La pena, la pena giusta, secondo lei, quale può essere per un omicidio di questo tipo? Cosa no, guardi, non sta a me, non so, non ho idea. Guardi, io purtroppo nella mia vita ho pensato al lavoro, mai a queste cose, ma mai si pensava di arrivare a questo. Io ho fatto una vita in giro per il mondo, ho viaggiato tutto il mondo per lavoro e tutto quanto, ma una cosa del genere no. Oh, immagino, certo. Ha fiducia dopo questa cosa qui? Ha fiducia nella giustizia o no? Mica troppo. Cioè lei pensa che che potrebbe essere libero, anche se condannato potrebbe uscire dal carcere tra pochi anni? Certamente, certamente, quello senz'altro. Non lo so, non so perché già parlano perché lui si è autoconsegnato e tutto quanto, già questo la dice lunga. Ma come? Perché è reo confesso e tu lo liberi perché ti ha detto che l'ha ammazzata? Ma non capisco, non capisco. Purtroppo la legge in Italia, ripeto, io ho girato il mondo tutto quanto. Ma non è che è stato scarcerato. Ancora più giovane andrei proprio fuori dai piedi di questa maledetta Italia. Scusi un attimo, Parenzo dice Parenzo. No, io capisco l'amarezza ovviamente di questo di questo signore, la capisco ovviamente, però non è che l'hanno scarcerato, gli hanno dato i domiciliari. Ho con capito, bacio, certo, certo, ma allora però lo capisco, cioè l'individuo era un individuo, era lui logicamente figlio unico, viziato, lui se aveva due pietanze nello stesso piatto non gli andava, lui guai così, pazzesco, guai colà, e adesso si trova, non mangiava quello, non mangiava quello, adesso si trova con papà e mamma, papà gli porterà il giornale, gli terrà aggiornato, la mamma gli fa la pasta, gli lava i cuscini, ma insomma, ma sì, io questo non riesco a immaginarlo, non riesco, è forte la mia sì, capacità. Ma è normale, perché dopo un omicidio, non stiamo parlando di un furto, un omicidio di una ragazza, della sua fidanzata, lasciamo perdere i dettagli, le cose che pure per lei sono importanti e sono un macigno, diciamo, no? Dopo un omicidio, una persona dopo due mesi si trova a casa coccolato dai genitori. Questo. Noi non riusciamo a darci cose, sono pace, io, mia figlia e tutto quanto, loro, mia figlia e mio genero non ne vogliono proprio sentir parlare. Di ma lei arriverebbe a perdonare questo ragazzo? No, mai. Non credo, non credo. Mai, nemmeno se si pentisse di quello che... No, si immagini. Scusi, si immagini, perché noi abbiamo dato tutta la nostra fiducia in lui. Certo. E lui ci ha proprio pugnalato la schiena, ma che pugnalata. E se lei ce l'avesse davanti, cosa direbbe a questo ragazzo? Ma cosa gli direi? Gli darei uno sputo in faccia, ma che mi abbia... Sì, mi lasci, per l'amor di Dio, non mi faccia dire cose. No, beh, certo. Capibile. Certo. Però che cosa chiedete voi adesso alla giustizia italiana? Non so, la priorità è riportarlo in carcere o no? Senz'altro, di togliere il figlio di mamma, di toglierlo di casa, perché è un viziato quello lì. Ah, in carcere deve stare, in carcere. Sì, non c'è dubbio. Ma al ministro Orlando, alla Presidente della Repubblica, cosa si sente di dire lei che è il nonno della ragazza? Niente, che cambino la legge. Più se oramai per il nostro caso è successo, oramai è malmente futuro, oramai combattiamo più per quello, perché oramai questo qua il giudice ha deciso e così sarà. No, cerchiamo anche di muovere le acque per il futuro, per gli altri, perché ce n'è ogni altro giorno di questi delitti, ogni altro giorno. Grazie Giovanni, grazie, arrivederci. Prego. Grazie, arrivederci. Sì, certo, il nonno di questa ragazza è sconvolto, avete sentito, no? Che gli vuoi dire? Certo. Ma ragazzi, io non gli voglio dire niente, certo. Tu a un certo punto hai cominciato a dire no, però dovrebbe capire che no, non è una scarcerazione, detto, ma questo che gliene frega. Ho ricordato non a lui, poverino, che ha subito quel lutto pazzesco, e quindi detto, se vogliamo, la cosa anche ovvia e banale, cioè non è una scarcerazione, ma è una misura alternativa al carcere, bisogna vedere perché gliel'ha andata, ragazzi. E non è uscito, non è libero. Ma due avete ragione. Ma no, ma certo, no, ma io non, non lo dico a te, non lo dico a te. Dico solo che sbagliate voi che dite è stato liberato, perché non è stato liberato. Ci comunque ragazzi, la Svizzera è un grande paese, lo zoo di Zurigo, vi dico solo questo. Beh, famoso. Chi non vuole più in casa. La droga era famosa. Sì, no, quella è un'altra cosa che c'entra. Lo zoo di Zurigo. Questo è lo zoo vero, non lo zoo il parco, non c'entra niente. Lo zoo di Zurigo. Della droga, libera, ma no. Chi non vuole più prendersi cura in casa di conigli o porcellini d'India, non capisco perché hanno detto i porcellini d'India, evidentemente in Svizzera sarà un'usanza mettersi in casa dei porcellini d'India, può portarli in pasto a leoni e tigri dello zoo. Cioè, è stupenda questa cosa. Sì, l'ho letta su un quotidiano ticinese. Lo zoo di Zurigo chi non vuole più prendersi cura di conigli o porcellini d'India e vuole liberarsene può portarli allo zoo di Zurigo e darli in pasto. Perché? Che male c'è? Scusa, non ho capito. Può darli in pasto a leoni o tigri. Mi sembra una cosa terribile. Ma scusa, però, leoni o tigri, se gli dai la carne, perché non gli puoi portare pure il tuo affetto caro? Glielo io darei in pasto donato da Varese, ad esempio. Questo potrebbe essere una soluzione. Ma che c'è? No, ma è una cosa terribile, però, se ci pensi, no? Di far uccidere, portare al patibolo la bestiolina che fino a un'ora prima ti ha tenuto compagnia a casa. È vergognoso. Pazzesco. Fermi tutti, fermi tutti. Lassativo parento e alla defecazio non ci penso. La zanzara. Poca figa massaggio. Viva il Movimento 5 Stelle, a presto. Il nome non l'abbiamo ancora scelto. Lo sceglieremo quando lo vedremo in faccia. Ciao ciao, ciao, un abbraccio a tutti. Ah, tra poco mia moglie entra in sala parto e divento papà. Grazie a tutti, grazie. Grazie al movimento, grazie. Adesso non ho ancora scelto il nome, penso che. Penso proprio che si chiamerà Di Battista. De cognome, de nome non lo so. Ma adesso devo salutare, devo andare perché. Ma porca troia, ma ti svegli, cazzo. Naturalmente. Come Macron. Allora, caro David, di nuovo in onda, di nuovo in onda qui con questa è l'ironia giusta da utilizzare. Sai che mi sembra che sia un anno che siamo in onda, mi sembra invece è passato vero, soltanto un mese. Nemmeno. No, devo dirti una vita. Sì, è vero, vita, devo dirti la verità. Diciamo, il primo mese è sempre così, però, t'assicuro. Una cosa il primo mese è sempre guarda, così. Ti terribile. Aiuterebbe una pasticca di Viagra. No, ma io a fartela guarda, passare ti meglio. Posso rassicurare. Allora, te ragazzi, e tutti siccome non avete il coraggio, diverse persone mi chiamano: no, voglio io Viagra, voglio Viagra. No, tantissime persone mi dovete chiamano. Dovete venire no. Qui. Esatto, nome e cognome. Nome e cognome, voglio il Viagra. Ne offro due fino alle 20:45. Due pasticche di Viagra del Conte Mascetti. Eccole qui, due pasticche a gratis. Vi costerebbe un occhio dalla testa, ragazzi. Venite qui, vi presentate. Sono venuto, Monterosa 91. Vengo. Venite con la vostra compagna anche, così anche. Fate una bella figura di merda. Ma venite, perché? Venite. Ma perché? Non è mica un reato prendere il Viagra, che sei no, scemo. Ma venite, venite pure, venite. Questo venite, non è un Viagra, fatemi è un Viagra vedere, naturale. Vogliamo vedervi in faccia, cari maniaci sessuali. Allora, che non vi funziona più. Luca vogliamo da Milano. Vedervi. Luca voglio da vedervi Milano. In faccia. Ma va, Luca da Milano, ma che c'entra? Dai, mica lo prendono solo quelli che non gli funziona. Quelli che non gli funzionano non gli funziona manco con la Viagra, non ti preoccupare, manco con la pillolina. Luca da Milano. Ma sì, il Conte Mascetti, che è un grande esperto di sesso. Che volgarità. Chi è? Che volgarità, che livello basso. Sono Luca, sono Luca. Dimmi Luca. Senti, io volevo dirti una cosa, non sponsorizzare il Conte Mascetti. Ma io non lo sponsorizzo. Un in che senso un coglione, scusa? Ma no, ma lui fa il complottista, le Big Pharma ce l'hanno con lui, ma chi ce l'ha con lui? Ma questo lascia perdere. Ma come lascia perdere? Ma dentro delle quattro erbette che non hanno senso. Ma l'hai provate? L'hai provato questo prodotto? Ma no, ma non c'è bisogno di provarlo. Allora, se non l'hai provato e parli. Non l'ha provato e parla. Devi vabbè. Basarti su dei trials clinici. Io sono un nutrizionista, clinici. Sono specializzato. Ho capito, in allora, nutrizione. Prendilo, adesso non vogliamo fare la discussione su questa roba qua. Prendilo, lo analizzi. Dopo che lo hai analizzato e dici no, non funziona. Inutile che io ho già analizzato quello che c'è dentro e non c'è dentro niente di significativo. Ma perché non l'hai provato? Provato? Non ha senso, no, non l'ho provato. Allora, tu dici a chi funziona, che è tutta una cosa è psicologica. È un effetto placebo. Diamo delle informazioni corrette a Radio 24. È un effetto placebo. Vabbè, ragazzi, secondo me no, perché io l'ho provato, per me non ha fatto un effetto placebo. Magari sì, non lo so, ma non credo. Cioè, ma io... sicuramente tu sei arrapatissimo, è un effetto placebo. Che cazzo dici? Ma come ti permetti? Sei pazzito, sono arrapatissimo. Branco di maiale. Proprio. Ciao Giovanni, sei Luca. La radio di YouPorn. Abbiamo ascoltato prima il nonno di una ragazza, un caso serissimo, dai Walter da Milano, che dici? Alto e basso, il solito, ecco. Walter, vai. Pronto? Dimmi Walter, dimmi. Walter. No, niente, stavo sentendo che... Walter, Che parla, prego, che tutti noi per comunità lavoriamo male, ma guarda, io sono un immigrato, cercatore di felicità, come dice Parenzo. Sì, ma da dove? Ti chiami Walter? Non mi sembra. È integrato. No, io mi chiamo Walter, sono di Honduras, d'America Centrale. Ciao fratello, grazie di essere venuto in Italia. No, non ho capito, ti chiami Walter? Walter con Washington. Gualtiero. Con doppio. Walter. Ma come te chiami, amico mio? Ma come ti chiami Walter? Tu ti chiami Giuseppe, Walter, lui si chiama Walter. Walter, che era Veltroni Walter una volta. Come ti chiami? Non ho capito. Walter. Walter, vabbè. Come si scrive? Da che paese vieni? De Honduras. De Honduras, vabbè. D'accordo, De Honduras. E che vuoi da me? Scusa, non ho capito. Hai chiamato per protestare con che cosa? Ma semplicemente, cioè, tu ce l'hai, incontro gli immigrati, ma guarda, io sono un cercatore di felicità, sono immigrato. Ma io non ce l'ho con i... Io non sono principio. Cercatore di felicità, questo è il modo è in cui... È passato questo principio, sono contento che è passato questa definizione. No, non è... intanto lascia che ti dica questo, a te e a tutti gli altri fratelli, grazie per essere venuti in Italia. Vi ma dico cosa grazie. C'entra? Ma no, perché? Grazie. Ma cosa posso c'entra? Posso ringraziare il migrante che è venuto in Italia a portare intelligenza? Walter, grazie Walter, Bertroni dall'Honduras. Grazie Walter, che sei venuto qui e hai portato la tua intelligenza, la tua forza lavoro. Ma che ne sai? La tua capacità, la tua famiglia, i tuoi affetti, ti devo dire allora, grazie a nome della maggioranza silenziosa. Donato, grazie. Dove sei? Donato, dove sei? No, guarda, lascia perdere. Donato per me è una persona che è pronto da curare, da mettere siamo in tanti, ospedale. Siamo, questo, ma che ospedale? Ma ci vai in ospedale, Walter, bravissimo, dai, Veltroni dell'Honduras. Ma che c'è? Perché ce l'hai con me? Non ho capito. No, perché cioè, semplicemente tu dai... ascolto a questi qua, a questi personaggi tipo Donato De Varese, l'altro non so come si chiama, Mauro non so di dove, cioè, però loro non, sinceramente non sanno la vita che uno vive quando viene qua. Io sono venuto qua con la mia famiglia. Ma tu sei mica sei un criminale, cioè non è che non sei uno che viene qua a fare casino, non sei uno che è arrivato col barcone nulla facente, magari no, cioè non sei arrivato qui. Non è che vai lì a gironzolare per le strade, magari sei venuto qui per trovare un'occupazione, sei una persona per bene, nessuno ti ringraziamo per essere venuto qui. Infatti sono venuto qua e... Vabbè, arrivederci Walter, non c'è un cazzo da dire. Ciao, dai, ciao. Forza. Fiorella da Udine, vai Fiorella, vai. Oh, buonasera. È arrivato un signore per la pasticca di Viagra qua, eh? Sempre se Viagra, insomma, Viagra naturale. Ah, perfetto. Fiorella, dimmi sorella. Allora, io per l'ennesima volta... Ah, sì, Fiorella da Udine, la nostra amica Fiorella da Udine, sì, Parenzo. Sì, oddio, io sono molisana, vivo e insegno a Udine. Non so chi sia. Come non sai chi sia? Te la dovresti ricordare, adesso fra poco te la ricorderai. Non è che so tutti i mostri che chiamano qua. Vabbè, ma è la demenza senile che lo fa parlare. Ma io non è che posso ricordarmi tutti i dementi che chiamano. Ha anche la demenza senile, sto coglione che parla... Ma sì, stai un po' zitto e fammi parlare. Forse adesso io ho chiamato per intervenire, non per sentire te. Ma è l'insegnante questa, è l'insegnante. La professoressa fascista, mi scrive giustamente Benedetto Sacerdoti. Io sono grazie Benedetto che ti ricordi chi sono gli imbecilli che chiamano. Mi ha scritto Benedetto che un ascolto Fiorella, dimmi, radio. Professoressa che parlare? Si dichiara fascista, sì, sì. Posso parlare? Prego. O quella mosca peggio di una zanzara? Prego signora, prego. Signora, scusi se ho detto signora, prego, signora, io adesso devo non smentire. Si può dire. Guarda, che cosa? Prima di adesso, parlare con me, lavati la bocca con la candeggina. La signora, che non la signora, ricordiamo a tutti che è una professoressa questa. Come ti rode che non hai avuto una professoressa ricordiamo, come me, che magari imparavi ricordiamolo, qualcosa. Ricordiamolo, magari, ricordiamolo, no, ministro Fedeli, no, ricordiamo Somaro, che questa insegna nelle scuole Soma, pubbliche questa. Sì, ricordiamolo sì, che questa fascista sì, insegna nella scuola pubblica. Dimmi, Fiorella, dimmi. Vorrei dire una cosa, devo smentire quell'essere immondo che ti ha fatto. Perché smentire? Io ho avuto lei ha avuto tanti problemi, è caduta dal seggiolone da bambina, guarda, e questo lo sappiamo. Ma io ti aspetto fuori, ti faccio una faccia come la fisarmonica. Lei è professoressa, guarda. Lei? Professoressa della scuola pubblica? Taci, non ti voglio sentire. No, lei è professoressa, giusto? Ricordiamolo. Ti faccio nero, guarda. Ricordiamolo. Scusa, Fiorella, amica mia, tu sei quella, per ricordare, scusami, sei quella che dice che non andresti mai con uno di sinistra perché sono meno performanti. Professoressa della scuola pubblica. Per l'amor di Dio, guarda, ma professoressa della scuola pubblica. Avanti, oddio mio, non ce la faccio più a sentirlo. No, beh, certo. Allora, la signora Fiorella è mussoliniana, diciamo, è mussoliniana. Sì, dimmi, che devo cosa devo dire? Due cose importanti. Allora, sì. Cruciani, chiariamo una cosa. La prima è che hanno aperto le gabbie. Io non sono razzista, ho degli alunni albanesi che sono ineccepibili, hanno un'educazione ineccepibile. Però devo dire un'altra il cosa. Il problema è l'insegnante che hanno, infatti. Prego. Oddio mio, ma io cioè, ma veramente, guarda, ma lei manco legga, sostegno legga può. In classe il ma libro. Bella battuta che può. Ha fatto, bella battuta che ha fatto, ma brava. Per favore, bella battuta. Legga in classe il libro Non sono razzista, ma la xenofobia degli italiani. Non sono razzista, ma lei è esattamente questo. Però Fiorella, andiamo a letto. Legga in classe il libro di Manconi. Perché hai chiamato? Perché è sola, perché è una donna sola. Non sono sola. Guarda, un compagno ma meraviglioso, figurati, non figurati, sono proprio per niente sola, solo sei tu, poveretto. Allora, volevo questo dire, io ho avuto purtroppo un'alunna di prima elementare, musulmana. Sentiamo. La quale veniva a scuola con il velo, con il non velo. Quello integrale. Allora, una cosa terribile. Allora, io questa. L'ho invitata in lei classe perché gli amici la deridevano. Dico, guarda, toglilo. Ha fatto questa violenza, questa bambina. Ha denunciato. La bambina ha pianto e ha detto zucchero, la zucchero, la zucchero. Le botte. Vabbè, allora, cioè invece di chiamare i genitori, stiamo calmi, invece, allora, no, non sto calmo con questa parlare. Qui. Questa deve essere sospesa parlare. Dalla scuola pubblica. Questa è un crimine che insegna. Certo, ha perpetrato una violenza nei confronti di una bambina. Ha pianto perché lei è un imbecille. Ha pianto perché lei è un insegnante fascista. Per quello ha pianto. Ma lo sentite cosa? No, calma, calma. Le hai fatto togliere il velo, poi? Mamma mia, una violenza inaudita. Ma stai zitto, Fiorella, dimmi. Lo puoi zittire un attimo? Sì, lo per sto, sto cercando di fare del mio meglio, vai. Allora, io dicevo, siccome la bambina veniva derisa dai compagni, ho detto, guarda, mettilo lì dove c'è il cappottino, no? Sì, e ha detto, non lo posso togliere perché sennò papà si arrabbia, mi dà le botte. E poi si deve chiamare i genitori, capito? Appunto. Ah no, allora gli ho detto, guarda, parlerò io con mamma e papà. Ecco, figurati. Ho parlato lei. Con il babbo e mi ha detto, lei è una donna, anche se una maestra è una donna, e da noi le donne non contano niente. Vabbè, grave, racconto. Molto grave questa cosa. Sì, allora io ho detto, e senza fregarmene, perché per fortuna avevo un dirigente intelligente, dico, guardi, qui lei è in Italia, le donne vengono rispettate, siamo certo, alla pari, se le conviene è questo, altrimenti tornate a casa vostra. Bello, brava, bellissimo, ho messo, brava, brava, se l'episodio è vero, brava, contatto. No, lei non conta niente perché lei non conta nulla, semplicemente perché è un insegnante che si dichiara fascista, quindi per me non conta nulla. Allora, io e non dovrebbe neanche insegnare per me. Allora sei ignorante, non perché è donna. Fascismo e nazismo sono due cose diverse. Ah, grazie. Sei un ignorante. Grazie. È reato dire anche comunismo. Grazie. Ignorante. È reato dire comunismo. Purtroppo. Ma dove mi dai il nome della cosa. Scuola dove insegna, per cortesia? Bruciani, che magari non vorrei cosa. Avessi degli amici in quella ma scuola, gli dico di andare via. Facciamo concludere. Mi dici il nome della scuola di questa qua dove insegna? Non mi ricordo più. Devi sapere che a Udine la manovalanza di cui tanto parla il signor Cruciani e il signor Parenzo, che io invito quelli che sto vabbè, per spiegare, allora? Che fanno, che usano fioriere a Udine come latrina di giorno, di notte in presenza di tu stai di dicendo anziani, immigrati di che pisciano, immigrati che pisciano. Sì, di giorno davanti ai bambini, cari fratelli, come li chiama quel deficiente. Parla il signor Parenzo caso. Ha tanto di giardino, usatelo come cesto. No, non ce l'ha. Sì, ce l'ha, il terrazzo. No, ho un terrazzo grande, ma non ho un giardino. Giardino di Parenzo. Non ho un giardino, ho un terrazzo. Allora non ho un giardino. Sa tua. La differenza tra giardino e terrazzo? Nel cesto di casa tua, perché io... Bello l'elogio della professoressa, è interessante. E quant'altro, non ne e quant'altro, voglio vedere insieme. Italiani per strada né musulmani. Fermi tutti, ciao. Andate Fiorella! Tutti? A casa di Parenzo. E un'ultima cosa, comincio la professoressa. Se sei in ascolto... Chi? Candidati chi? Come presidente, per favore, del consiglio. Ma chi? Cerca di fare qualcosa. Ma chi? Di non giusto. Ho capito bene. A chi? A Sgarbi. Ah, Sgarbi, non ho capito. Ciao, ciao Fiorella, ciao. Oggi sono qui, a Montecitorio. Se tutti avete coraggio, scendete a parlare con me. Diritti e doveri, €1.000. Renzi, Fitusi, Affano, Chissà, Lani, Fitusi, Affantrini, Fitusi, Renzi, Fitusi, e io me lo voglio attenuare di contributi. oggi ho strappato l'INPS. La Zanzara. Ma perché in Svizzera, se tu giri per strada a Berna, a Zurigo, a Ginevra, non trovi un migrante, dico uno, che rompe il cazzo e che non fa niente? Perché? Perché per entrare in Svizzera devi dimostrare dove abiti, se hai un lavoro e quanto guadagni, se no non entri, caro Parenzo, hai capito? Buonista di sta minchia. Giuseppe mi ha appena attraversato la strada un colored, un migrante a Garlasco in provincia di Pavia. Io sono uno di quelli che frena, però questi devono spiegargli come cazzo si va in bicicletta. Vedrai che ti arriva la denuncia, bastardo che sei altro, stronzo che sei altro. Vedrai che ti arriva la denuncia, stronzo che sei altro. Allora ragazzi, intanto sentiamo Fabio da Roma, è arrivato uno per la consegna delle due pilloline, eh? Vai Fabio, Fabio. Pronto? Dimmi Fabio. Senti, io forse arrivo in ritardo, volevo parlare della storia. Tu non arrivi mai in ritardo, basta che vai al sodo, vai, dimmi. Allora, prima una piccola cosa che devo dire a Parenzo, perché io sono della maggioranza silenziosa, no? Però gli devo fare... Sì, ci devi stare. Però gli devo fare una piccola critica a Parenzo, cioè quando telefonano certe persone, caro Parenzo, sì, tu però... esageri a non farle parlare, tu le devi far parlare, sì, perché no, bisogna sentire l'anima ragione fino in fondo delle cose, poi dopo dici tutto quello che vuoi. Su questo io avete ragione, vi chiedo scusa, mi sono lasciato trasportare. Sì, avete ragione, chiedo scusa. Capita un po' spesso, però lo so, vabbè, dopo questo consiglio a Parenzo, perché dai, quest'anno vai, la maggioranza silenziosa deve pugnare, deve combattere di più, e infatti siete tanti e sta emergendo, grazie. Sì, però bisogna sentire le opinioni dei tutti, sì, e poi bisogna tirare fuori l'anima delle persone. Io lo sappiamo meglio di te, vai, forza. Però a volte non si fa. Senti, allora Cruciani, vabbè, questo è sempre un po' più rivolto a Parenzo che a te, dai, forza amico mio, dai, forza. Quel ragazzo, ma voi siete andati un attimino ad approfondire per quale motivo il ragazzo è stato mandato a casa? Ma non, mi sembra che c'era un pericolo che potesse commettere degli atti dentro il carcere di uccidersi, togliersi la vita. Non è che c'era un pericolo, io a parte il fatto che così eticamente anch'io quando ho sentito la notizia inizialmente rimani sconvolto. Sai quanta gente lui è stato mandato a casa perché ha tentato più volte il suicidio, farà il suo processo, tutto prenderà da verificare, la sua pena, io spero tutto anche da verificare, sai quanta gente qua, sai quanta gente si vuole ammazzare perché sta in carcere, perché lo Stato non può comportarsi a cazzo come pensiamo noi con la nostra pancia. Io so solo una cosa, dopo due mesi un ragazzo che ha ammazzato la propria fidanzata viene scarcerato, tra virgolette. Non è stato scarcerato, tra virgolette, ho detto, tornerà in carcere e prenderà, io spero che con prenda il braccialetto elettronico. Ma è stato mandato a casa perché ha tentato il suo, ma c'è un giudice che deve deve sperare. Ma che secondo te alla famiglia, secondo te alla famiglia di quella che è stata ammazzata? Ma a me la famiglia mi dispiace, ma tu non puoi che fare cosa gliene frega di quello che sta in carcere, che scusa, ma che cazzo dici, ma scusami tanto, ma io mi metto nei panni di un giudice, fossi un giudice, se vengo a sapere che quella ci sono tanti modi per impedire una persona di suicidarsi in carcere, ci sono tanti modi, il controllo, c'è tanti modi, tanti modi, ma quanti se ne sono ammazzati in carcere, ma che stai dicendo? Ma non è che possiamo fare omicidi dentro i carceri, cioè adesso probabilmente quel ragazzo avrà un assistente, ma quando tornerà a fare il suo processo io spero che prenda più anni possibile, non è che lo sto difendendo per quello che ha fatto, lo so che lo stai difendendo, in questo momento è mentalmente va curato, ci sono tante persone, questa è la maggioranza silenziosa, c'è ottima, lo Stato, ottima riflessione, come... dopo due mesi è una vergogna, ciao dai, ciao Fabio, va bene, tu dato ragione sempre ciao, a cazzo, ciao. Bravissimo, venga avanti, ha vinto due pillole, è diventata del una farmacia naturale. Sto vai, venga avanti, entri. Speriamo non sia un criminale, ammazza che faccia che c'è. Mettimi, vai là. Sei bianco come una cosa. Che c'hai? Io, mamma mia, c'è uno che è venuto qua una dentro. Una qualsiasi? No, questa qua, una qualsiasi, dai, una qualsiasi. Vai, parla, come ti chiami? Rocco Faraglia. Che fai di mestiere? Commerciante di frutta. Commerciante di frutta, questi mi piacciono, amico mio, gente del popolo! Non gente come te, Davide, che vive nel mondo della virtuale, dei salotti e dei mentana, e degli amici altolocati. Questo fa il, ripetilo. Commerciante di frutta. Benissimo, quanti anni hai? Mi hai detto quanti anni hai? 47. 47, sposato, coniugato? Mai no. Sposato. Mai sposato e non te vuoi mai sposare mai nella ormai vita? Ormai è passata. Quanto trombi? Tanto. Puttane? No, adesso no, no, non mi ispirano più. Non ti ispirano, prima no. Sì, naturalmente. Ma poca, per goliardia. Per goliardia, hai una compagna fissa? No, naturalmente, già maledetto, non sei fidanzato. Però, come dire, cambi partner spesso? Ma non, insomma, molto. Non molto. Non molto. Sei pelato? Che c'è questo cappellino? Sei pelato? No, no. Che c'è? No, non sei pelato, ce l'hai i capelli? Sì, sì. Allora, ti consegno due pasticchette di Viagra. Due, perché sei arrivato. Poi che avevo detto il prossimo due, eccole qua. Due, eccole qua, grazie. Del Conte, mi raccomando, la zanzara è radio24.it. Dimmi se hanno funzionato oppure no, mi raccomando. Mi raccomando, certo, certo. Certo. Ma hai visto, hai sentito come parla? Davide, no, come mi parlo, sembra, no? Sono basito da questa. Cosa? No, dal fatto che della gente che sta tornando a casa si sente l'annuncio che tu regali del Viagra, prende la macchina, la mette l'indirizzo di Viale Monterosa. No? Ero a Porta Romana, ho attraversato la città, un traffico pazzesco, avrò preso qualche multa, ho fatto delle infrazioni per arrivare qua. Cioè, e il paese, se dipendesse da sta gente qui, sarebbe finito. Per ma fortuna, perché? Non... Questo fa... perché uno che prende la macchina per andare a prendere la pastiglia di Viagra, no, da Cruciani a Radio 24, a me sembra un mondo che gira al contrario, ragazzi belli. Non so che cosa dirvi, mi dispiace. Te ne devi fare una ragione. Gran lacché di establishment. Mamma mia, io? Come lotta, gran lacché di establishment. Tu sai che cos'è il Rosatellum per caso? Sì, beh, come no, caro è la amico legge, mio. È la legge. Guarda, non mi ricordo. Rocco. Rocco, qua. Ascolta. Dimmi. Ascolta, è una vergogna. Così. Cosa è una vergogna? In generale va bene così. Dal Mattarellum in poi, dal Mattarellum in poi è solo una vergogna. Non riescono a fare una legge, sono 30 anni. Io non 30 vado anni, più. No, però hai ragione. È dal 92 che abbiamo fatto il referendum di segni. Per ma il tutto sa più di te, questo qua rivende la frutta. L'editoriale ciao di amico qua. Mio, ciao, ciao, ciao, prendi le due sticche di Viagra, ciao. Allora, David, l'effetto ce ne sono ancora qua tre, ragazzi, fino alle 20:45, poi forse domani. Allora, l'effetto della legge Fiano è che in un paese che si chiama Soragna, credo che sia vicino in Emilia, vicino Salso Maggiore, vogliono mettere al bando l'ideologia comunista. Ti giuro, una della Lega, la cosa è stata approvata anche dal Consiglio Comunale, consigliere Maria Pia Piroli, dice: chiunque propaganda le immagini e i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionale socialista tedesco, ovvero relative ideologie, dice la legge Fiano, eccetera. Lei dice bisogna mettere al bando anche le immagini e i contenuti del partito comunista, capito? Questo è l'effetto che avete provocato ma in questo paese. Ma i questo con la legge sono Fiano. Stati io voglio chiamare attivi. Questa qua, voglio chiamare questa qua. Vuole mettere al bando l'ideologia comunista. Pronto? Sì, buonasera, qui Radio 24, salve. Salve. Salve. Buonasera. Ma è vero che voi avete fatto approvare una mozione, non so che cosa, per proibire i simboli del comunismo? Signore mio. E questa mozione è stata approvata. Ecco, sì, ma questa mozione in cosa consiste? Ce la può spiegare? È una provocazione che si riferisce alla legge Fiano. È una provocazione con riferimento alla legge Fiano, che io la trovo... Sì. La legge Fiano è una legge perfettamente inutile perché la nostra anch'io? Costituzione già comprende tutto quello che serve, sì, perché non si ripeta quello che è già successo, purtroppo, sì, nefasto negli anni che conosciamo bene, ed sì, essendo stato inserito anche il partito nazifascista, sì, che riguarda l'Italia in questo caso, sì, io ritengo che allo stesso modo a questo punto vadano inserite anche tutte le ideologie che hanno fatto riferimento alla falce del martello, che tanti morti hanno portato. Brava, non è male però come cosa, lo sai, non è male. Io, secondo me ha ragione. Io dico solo mamma mia. Ovviamente lei non crede, cioè mamma non vorrebbe una legge mamma così, mia, no? Mamma o sbaglio? Mia. Aspetta. Assolutamente mamma no, io non la voglio una legge così, perché è una legge, secondo me, liberticida. No, ma una legge sui simboli comunisti non la vorrebbe. Certo che no. Se approvate una che proibisce i simboli del nazifascismo, approvate anche una legge che proibisce i simboli del comunismo. Mamma esatto. mia. Ma mi pare perfetto. Qual è il problema, Valenzo? Mamma non ho mia, non posso neanche aspetta, dire... Signora... No, dico solo mamma mia. Poi dopo quando... Aspetta, io... Mamma mia. Saluto signora... la leghista, mamma no, mia. Lei dice mamma mia. Mamma... Lei dice mamma mia. C'è il diritto a dire solo... Non sono intervenuto. C'è il dottor Cruciani. No, ho detto dice... solo... Ho sospirato e ho detto mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Aspetta, aspetta. Aspetto, ma dico solo mamma mia, posso dire in base alle leggi vigenti, mamma mia, papà. Mamma posso mia, posso dirlo? Mio. Sì, certo, dica quello che vuoi. Però, secondo me il comunismo ha fatto più morti del fascismo, in generale. Sì. ha fatto questo, molti più questo senz'altro, e ha fatto anche, ha fatto anche tante conquiste sociali il comunismo, però non il comunismo di Pol Pot. Cosa c'è? Sto per esplodere, scusa, mi devo trattenere. Cosa c'entra Pol Pot con l'Italia? Cosa c'entra, signora della Lega, Pol Pot con l'Italia? Cosa c'entra? Woodcock, dove sei? Ma che c'entra Woodcock? No, va invocato perché fa inchieste su tutto, faccio l'inchiesta anche su questo. Cosa c'entra? Cosa c'entra sempre con comunismo l'Italia? L'Italia ha avuto il fascismo e i comunisti con i democristiani hanno liberato l'Italia dal fascismo. Cosa c'entra Pol Pot? Maria Pia, rispondi. Ma io non riesco a capire perché questa persona è così agitata. Perché evidentemente perché ha un nervo scoperto. Mi agito di fronte alle sciocchezze dei dibattiti inutili di morti causati dall'ideologia ispirata alla falce del martello. Cosa c'entra l'Italia? Non sono ancora metabolizzati. Ma cosa c'entra l'Italia? Cosa c'entra comunista italiano? Dove li vede i morti per mano comunista in Italia? Dove li vede in Italia i morti fatti dai comunisti? Le foibe sono titine! Ma non dire puttanate, dai! Tito! Ma sei impazzito, sei! Ma no, mi avete rotto i coglioni tutti con questa storia! Ma sei pazzo, sei pazzo! Voi siete pazzi! E i soldi presi dall'Unione Sovietica per una vita, e i soldi presi da regimi assassini. Ma sei impazzito, sei? Io non faccio dibattiti storici con questa della Lega. Maria Pia, li faccio con Paolo Mieli, non con questa qui. Io sto semplicemente rispondendo ad una domanda. Usi sempre la pacatezza, Maria Pia, usi sempre la pacatezza con grande calma, con educazione. Non riesco a capire che cosa stia dicendo questa persona. Ha bisogno di calmarsi. Non so se avete della camomilla lì da qualche parte. Ma non c'è nessuna credo camomilla, mamma mia. Io dico solo mamma capire... mia. La signora ha preso in ostaggio il consiglio comunale per discutere di una cosa che è una puttanata mega galattica, cioè per mettere al bando i simboli comunisti. Vi sembra un dibattito? La puttanata è la legge Fiano, quella è una grossa puttanata. Signora mia, lei non l'ha capito. Il significato della mia azione era sottolineare la puttanata della legge Fiano. Lei sta perdendo. La legge Fiano non l'ho scritta io, quella è una grossa puttanata. Ma cosa adesso fa alzare la voce anche a me? Ma cosa alza la voce? Stiamo calmi intanto, perché mi pare che qui stiamo andando fuori dai binari, Ha ragione la signora. Stiamo calmi, Maria Pia. Voglio dire, usiamo un linguaggio consono alla Radio 24. Maria Pia, grazie, arrivederci. Ma grazie di cosa? Arrivederci. La Zanzara. Ma buonasera, miei piccoli schifosini. Luciani, telefonata a luna di notte. Sì, pronto, sono il comandante dei carabinieri. Abbiamo beccato suo figlio a puttane. Risposta. Comandante, questo è molto buono. Siamo al top. Non ce ne frega niente, nulla, zero. Perché Parenzo, cazzo duro, non conosce vergogna. Oh, ragazzi, basta. Cioè, adesso va il turno di Nardella, ma ogni tanto i politici si svegliano e a turno ci spiegano come contrastare la prostituzione o il traffico di droga, eccetera, eccetera. Basta, la soluzione c'è, si chiama legalizzare. Siamo nel 2017, legalizziamo. Io c'ho tutte le specialità, tutte. Allora, ragazzi, questa è l'Italia. Questa è l'Italia. Possiamo dire, come una vecchia rubrica qui della Zanzara, Italia paese di merda. Siamo ad Adrano, comune italiano di 36.071 abitanti, vicino Catania, provincia di Catania. Il territorio di Adrano si trova nel parco dell'Etna. C'è un collaboratore di giustizia. Un signore diventa un collaboratore di giustizia, evidentemente ex mafioso affiliato ad alcune cosche mafiose. Sai cosa sono spuntate? No. Che fai? Sei lontano dal microfono, David? No. Sono spuntati dei finti necrologi. oppure ci sono spuntati dei necrologi per il figlio del capo mafia che è pentito da pochi giorni, un tale Valerio Rosano di anni 26. Questa è l'Italia, bravo, questa è l'Italia peggiore. No, questa è l'Italia, questa l'Italia è l'Italia paese di M, come dai, dici tu, questa su, è questa, dai. È bravo, queste vergogna, sono cose da raccontare. Andrano, vergogna, queste sono le vergogna cose. Bravo Roberto da Napoli, vai Roberto. Pazzesco. Buonasera. Dimmi Roberto, dimmi. Senti, io tornando dal lavoro, io sono farmacista. Sì, vi sì. Ho ascoltato, non so se era uno scherzo, che voi state dando compresse di Viagra, è vero? No, fermo lì. Allora, questo prodotto è un prodotto naturale che non è registrato come Viagra o come Cialis, è un prodotto come se fosse una caramella, come se fosse una... Lei l'ha chiamato Vabbè, Viagra. Perché è Viagra naturale, soprannominato così, è un prodotto come se fosse un integratore alimentare, dunque non c'è bisogno di nessuna prescrizione, perché che volevi? Volevi denunziare per caso? Sì, certo, perché l'etica professionale è una cosa seria. A parte che, amico mio, tu sei farmacista e dunque proteggi il tuo orto, lo capisco. Il punto fondamentale è un altro: se a me regalano del Viagra o del Cialis, io lo voglio regalare a mia volta a qualcuno, non ho bisogno di nessuna prescrizione, cioè punto, è chiaro. Ma se ne assume lei le responsabilità, e mi assumo la responsabilità. Radio può regalare Viagra, ma io non è la radio, io regalo via, uno viene qua degli amici miei, io regalo queste pasticche, basta, oggi lo faccio, punto e basta, che peraltro sono integratori alimentari. E se è arrivato il farmacista, ma di reati, ma che ancora Non lo chiamare Viagra, non lo chiamare Viagra. Dario, certo, da Roma, certo. Dario. Sono io, perché sei un ignorante. Sì, vabbè, ciao, arrivederci. Piate due pasticche di Viagra stasera, così trovi meglio. Dario da Roma, vai. Dario, dimmi, Dario, dimmi. Niente, io volevo portare la mia, diciamo, testimonianza personale che riguarda mio familiare. Io sono polacco, mio nipote, che per reati molto minori, reati contro patrimonio, sta in galera da 10 anni. E questi qua lo rilasciano, quello che ha ammazzato la ragazza, se l'ha portata in macchina. Incredibile, guarda, incredibile. Cioè, una cosa allucinante. Incredibile. Cioè, non so come funziona bene la giustizia in Polonia, ma certamente non liberano un assassino dopo 2 mesi dandogli domiciliari, su questo ma non c'è dubbio. Ma non esiste. Mio nipote, prima cazzata, ha fatto quando aveva 17 anni. Gli hanno dato 2 anni in sospensiva, hanno detto tu sei minorenne. Abbiamo capito che hai in fatto Polonia, un errore. Amico mio, in Polonia! L'autosistema giuridico polacco. Dopodiché ha fatto altre cazzate. Alla fine, 18 anni, scattati un giorno, hanno bussato alla porta, se lo sono bevuti, se lo sono portati. Ancora 2 anni deve fare. Il suo adorato Dario. Mi dispiace perché è mio nipote. Vabbè, però ha fatto una cazzata. Lo Stato è lo Stato. La punizione è la punizione. Non è che poi ci sono i manconi, gli sconti di pena, eccetera. I manconi di turno. Certo, ringrazia che esista. Purtroppo ce n'è uno solo di manconi, purtroppo lo sapevo che ti facevo scaldare, certo, che il grandissimo Dario, leggetevi il libro, non sono razzista, ma manconi, la xenofobia degli italiani, gli imprenditori politici della paura. Non ti scaldare, che vedo arrivare una persona, non ti scaldare ancora un altro. David, chi c'hai accanto là che vedo che c'hai una persona, là, che hai portato? Amico mio, a Confindustria, alla radio della Confindustria, diamo lezioni su come non pagare le tasse! No, perché ride? Chi è? Il chi dottor c'è? Gianluca Massini Rosati, che sono tanti nomi, è una persona sola, che ha fatto questo libro incredibile, Pagare meno tasse si può, escapologia fiscale. Tu già la parola ti innervosisci. Ma è la tua marchetta praticamente, è sostanzialmente la tua marchetta. Così comunque, va bene. Marchetta. Escapologia fiscale. Qual è il punto? Questo signore che qua, che è un commercialista, lei? Assolutamente no, ci tengo a precisarlo. Ma scusa, per pagare meno tasse, che è una cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, quello tutti vorrebbero pagare meno tasse, inutile che ci dite che le tasse sono belle, cioè le tasse non sono belle, le tasse fanno schifo, diciamo la verità, le tasse fanno schifo a tutti, pagare le tasse, però basta il commercio. Dai, come fai a dire che fanno schifo? Se tu le paghi nella misura giusta, dai, servono, siamo in un paese evoluto, dai. Comunque le tasse non fanno schifo, non ditemi minchiate, siamo obbligati a pagarle, ma desidereremo non pagarle. Ma diciamo per i servizi, le paghiamo per i servizi, sì, ma ognuno di noi vorrebbe pagare meno tasse possibili. Allora, no, su questo non c'è dubbio. Allora questo signore, adesso che è un tuo amico probabilmente, cioè, che vedo qui, ha scritto un libro di grande successo, mi sembra di capire, no? Adesso leggo al volo qui. Adesso questo signore, bastano i commercialisti però per pagare meno tasse, non ci vuole un signore che scrive un libro, perché non bastano i commercialisti? Ma questa è la teoria, perché poi i commercialisti si trovano tutti i giorni a combattere con i mille adempimenti che hanno da fare, sono sostanzialmente diventati dei dipendenti dell'Agenzia delle Entrate senza neanche lo stipendio. Cioè tu stai dicendo sostanzialmente che i commercialisti non valgono un cazzo, i commercialisti no, in Italia? No, assolutamente, quello stai dicendo. Io ne uso tantissimi e sono veramente, sono per me dei validissimi collaboratori, e soprattutto io non mi muoverei mai senza i miei commercialisti, assolutamente, sono fondamentali. Perché lei, appunto, perché scrivi un libro, no, come si può pagare meno tasse? Per quello basta un commercialista bravo o no? Questa è la teoria, poi nella pratica però purtroppo i commercialisti hanno troppe cose da fare, non sono focalizzati sul risparmio fiscale. D'accordo, per andare al sodo, tu hai scritto un libro per fottere il fisco, questa è la realtà. Dai, come inculare il fisco? Come inculare il fisco? Ma detto così, insomma, non eluderlo, però insomma lei dà dei consigli su come aggirare legalmente e pagare meno tasse legalmente, assolutamente. Certo, tutti dicono così legalmente. Beh, sì, legalmente per forza ci mancherebbe altro. Quello per forza, altrimenti ti avrebbero già arrestato, altrimenti ti avrebbero già messo le manette. D'accordo. Sono 2 anni ormai, quindi ancora però sono libero. Dai, va bene. Come fottere il fisco ed essere felici? Questo. Dimmi una cosa, caro Gianluca, qual è il consiglio? È uguale, dai. Il consiglio principale che dai a qualcuno per fottere il fisco qual è? È quello di avere, acquisire intelligenza fiscale. Vabbè, dai, ma questa è un'intelligenza fiscale, amico mio, quello vai da Barisoni a dire l'intelligenza fiscale. Ma vai da signor Barisoni, dal signor non so da chi, a dire l'intelligenza fiscale. Ma che me ne frega a me di intelligenza fiscale? Dai, allora, te la dico un'altra, dai, scegli il commercialista giusto focalizzato sul risparmio fiscale, dai. Ma hai fatto venire già il latte alle ginocchia con questa storia. Dimmi una cosa su un argomento che mi interessa molto, che sono le puttane. Ma che ne sai lui delle prostitute? No, scusa. No, ne pensa che ho studiato la loro posizione. Non è vero. Sì, te lo giuro. Ma non è vero. Ho fatto una ricerca specifica. Sulle prostitute? Sulle prostitute, perché poi ci sono state un sacco di sentenze della Cassazione che hanno detto che anche le prostitute devono pagare le imposte. Lo sappiamo. E quindi ho cercato di capire quale potesse essere la forma giuridica migliore per loro, anche per pagare le imposte, però e in modo e qual è? Come si devono registrare? E loro devono fare una... Ecco, il problema in realtà è proprio la registrazione. Siccome la forma giuridica l'abbiamo individuata, ma il problema è il come, perché non esiste il codice attività. Cioè, loro come si registrano? Certo. Che ci mettono in camera di commercio? Non c'è codice attività prostitute, cioè la cosa migliore quale potrebbe essere? La più vicina è servizi alla persona. Uno si potrebbe registrare. Allora, tutte le prostitute italiane che sono all'ascolto, e sono molte, se volete pagare le tasse, secondo me non le vogliono pagare, purtroppo. E invece credimi che ci sono qualcuno che mi ha scritto dicendomi che vuole pagare le tasse e non sa come fare. Credimi, ci sono. Sì, ci sono, però la maggior parte, io le conosco molte, dicono: ma chi me lo fa fare? Perché devo fare da solo la battaglia, espormi, eccetera? Sono in nero. Tanto la legalizzazione non ci sarà mai, le tasse non le pagherò mai, ma che bisogno ho di registrarmi? E invece non è vero, perché ci sono un sacco di prostitute che magari hanno anche una situazione familiare, hanno i figli, vogliono in qualche modo crearsi una situazione legale, cioè vogliono uscire fuori. Secondo te, servizi alla persona. Secondo te la cosa migliore è Parenzo, prendi lezioni, servizi alla persona, fanno dei servizi alla persona. Ma certo che fanno. Fatelo dire da quel signore che non so che faccia di mestiere. Lei è mai andata a puttane? Il dottor Rosati? Che non so, Rosati, che fai di mestiere? Imprenditore fa, venditore di pentole, che fai? Io vendo un sacco di cose, vendo energia, vendo servizi web, vendo servizi alle imprese. Vabbè, dai, sostanzialmente non fai un cazzo, diciamo la verità. No, ma niente. Come fai a dire la sì, cosa? Certo, 150 persone lavorano per me, io non faccio niente, sto qua a parlare con voi. Vendo cose, 150 dipendenti. Qualcuno dice già vendo cose, vendo questo, vendo quest'altro, significa che c'è un sacco di cose così vaghe. Cioè reddito, quanto guadagni? Scusa, quanto guadagni? Devo dirlo, siete sicuri? Sì, no, ma scusa, vuoi dire come fottere il fisco, non vuoi dire quanto guadagni? No, perché il problema è che poi agli italiani i ricchi stanno antipatici, quindi quanto non posso guadagni? Dire quanto, dimmi, quanto guadagni. Una milionata l'anno, dai. Un milione l'anno. Una milionata l'anno, così. Un milione l'anno. Posso toccarla? Lo sto toccando. Ma veramente guadagni un milione l'anno? E quante tasse paghi? Quanto paghi di tasse? Un po' pago, dai, metti che un 200.000 l'anno li pago. 200.000? Ma come riesci a fottere il fisco così? Ma non è che che lo fotte, ancora tu continui a dire fotte il fisco. Tutti i trucchi, registrazioni, cose, imbrogli. Ma io ho una massima ammirazione. Era una persona veramente per bene, prima di varcare gli studi della Zanzara. Un milione l'anno, amico mio, sei il numero uno, un milione l'anno, fottendo il fisco. Ma non te lo dico da amico, te ma lo dico da amico. Il fisco, lo scusami. Elude. No, assolutamente, io voglio non dire così, sennò poi c'è la finanza alla porta. Esatto, dai, per agenzia delle entrate, controllate bene questo signore. Ma chi scusa, se lui ci ha scritto un libro, evidentemente. Sì, ma controllatelo bene. Controllate perché non mi tornano i conti. Il libro, i conti non mi tornano. Gianluca Massini Rosati, andate a controllare bene, signore del fisco, dice di guadagnare una milionata. Anche tu che già controllano bene, se poi gli metti anche il carico 200 mi dice di pagare 200.000. No, dice, ma perché devi trattare così il dottor Massini Rosati? Ah no, che lo tratto? Sto dicendo la realtà, 200.000, un milione, andate a controllare in che modo riesce a mettervela in quel posto. Va bene, venite a controllare. Scusa Gianluca, però voglio dire una cosa, le prostitute dunque servizi alla persona. Parenzo, prendilo anzitutto anche tu. Mi sconvolge questa prendi dicitura. Prendi questo che... e porta a casa. Qual è la tassazione giusta, secondo lei, per una prostituta? La prostituta potrebbe aprire una ditta individuale in modo che può comunque dedursi tutti i costi legati all'affitto magari dell'abitazione, alla pubblicità che si fa online. Cioè, vabbè, c'hanno dipende, un sacco di costi le prostitute, quindi potrebbero cioè, anche i preservativi potrebbero essere certo, scalati. Sono inerenti all'attività preservativi, giochi anche sessuali. Anche il Viagra, queste cose qui. C'è giochi sessuali. Giochi sessuali pure sono deducibili. Fa parte dell'attività, scusami. Ma ragazzi, dicendo delle porcherie inaudite. Ma che porcherie? Servizi alla persona, e su questo non si transige. Anche l'esperto, esperto. No, lei è mai andato a puttane? Ma ancora? No, ti ha detto. Perché lo devi mettere in difficoltà? È giovane, è bello, non lo so, però. È bello, sono un tipo, dai, adesso non esagerare. Ciao ragazzo, ciao, presto, ciao. Un milione di euro, roba, incredibile. Alberto Mancona, vai per il gran finale. Incredibile comunque, ragazzi. Un milione di euro. Hai avuto accanto una persona che guadagna un milione di euro. Sì, ma tu sei stato un po' inopportuno. Aspetta Alberto, io sono ancora colpito da quella storia di Adrano in provincia di Catania, dove delle persone hanno avuto l'ardire anche cioè sono degli spudorati, la spocchia, bravo, no sì, perché sì. Evidentemente sono impuniti di mettere quei manifesti dei finti necrologi per il figlio del capo mafia pentito di 26 mi anni. Mi piace la parola impunito, Alberto, sono degli impuniti, bravo, è vero. Sì, perché evidentemente nessuno fa un cazzo, dai. Esatto. Dimmi, dai. Pronto, allora, avete parlato di Gorrini, Luigi Gorrini. Non abbiamo parlato di Gorrini, abbiamo detto l'avete paragonato a Himmler. Io non so manco chi è. Perché vuoi parlare di questo Gorrini, dimmi? Perché è un asso, uno dei pochi assi dell'aviazione italiana, sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale. Gli vogliono non l'ho paragonato. È una medaglia d'oro, mi fate parlare, è una medaglia d'oro. Sì, ho detto semplicemente che sarebbe come se in Germania. No, ho detto lui. Facciamo anche ho detto sarebbe come se in Germania facessero un monumento a un uomo che ha partecipato allo sterminio degli ebrei e ha partecipato al Terzo Reich con Hitler. È un aviatore della Repubblica Sociale Italiana, però. Ma della Repubblica Sociale Italiana, però. Della Repubblica Sociale Italiana. Che vuol dire? Scusa. O sbaglio? Ma mi fate parlare. Allora, o sbaglio, non lo so, chiedo. Ha combattuto fino all'8 settembre 43 nella Regio Aeronautica. È benissimo. Poi ha fatto la sua scelta, ha voluto continuare. Vabbè, Alberto, perché hai chiamato? Dai bombardamenti indiscriminati. Alberto, innanzitutto stai parlando da un viva voce o qualcosa del genere, sicuramente, al 100%. Allora, aspetta che lo tolgo io. Porca la gran puttana, ma come te lo devo dire io? Ma porca puttana, mi devo incazzare alle 20:50? Pronto? Allora, con viva voce sto cretino. Pronto? Dai, che vuoi da noi? Che vuoi? Parlare di questo qua? No, non me ne frega. Ma non ha paragonato Gorrini. Hai chiamato tu? Himmler. Hai chiamato tu? Lui l'ha paragonato a Himmler. Gorrini, non ho paragonato Gorrini a Himmler. Non l'ho paragonato, allora, ho detto. Questo è un pilota che difendeva le città italiane. Ho detto sarebbe come se in Germania facessero un monumento a uno che ha partecipato con il 8 settembre 43 e ha preso una medaglia d'oro. Ma cosa vuoi da noi? Spiegami. Cosa vuoi da avete, noi? C'è avete un signore. Un paragone sbagliato. Ma, senti, Alberto, per me possono fare tutti ancora i monumenti che vogliono. Sto dicendo, Fiano, dove sei? Perché un sindaco del PD, credo a Fidenza, sì, vuole fare un monumento in onore di questo signore. Per me fa bene. Anche per me fa benissimo. Basta che, ma va benissimo. Basta che tu non ci fai due coglioni così, però, con questo Gorrini, di cui non ci frega una mazza. A me non me ne frega un cazzo. Ma non abbiamo fatto nulla. Non è così. No, tu sì, perché Parenzo, ho detto semplicemente è come che se facessero una statua è come a Himmler. Se facessero una statua a un uno che ha partecipato, ma non è vero, non è la stessa cosa. Bombardava gli aerei americani, scusami, gli americani hanno liberato l'Italia dal nazifascismo, nella guerra sono successe tante cose. Scusatemi ragazzi, la proprietà transitiva vale o no? Vabbè, c'erano da una la Repubblica cioè italiana era una repubblica fantoccio in mano ai tedeschi, dall'altra parte c'era l'Italia, okay? Abbiamo trasmesso l'Istituto Luce, ci sentiamo domani alle 18:30, ciao. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, quando lo dica, a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.